Luciano, posso farti una domanda? Mi piacerebbe che tu facessi una trasmissione una sera, una puntata, su qualcos'altro che la politica. Parliamo di Parenzo, un'idea di estetica, di cosa, ma anche di figlio, non so io. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Dovranno interessarsi a trovare un papà e una mamma ai 150.000, non a tutti naturalmente, cani che sono prigionieri nei canili comunali, che tra l'altro costano alla collettività 260 milioni all'anno. Mentre Renzi annuncia la sua riforma del Senato, che secondo me è una cagata pazzesca, l'unica cosa positiva, diciamo in teoria, è che non si voterà più. Non si voterà più per il Senato quando questa riforma sarà approvata, ma si rischia un pasticcio peggio del bicameralismo perfetto, come dicono, come dire, i tecnici, Mentre Renzi annuncia questa riforma, Berlusconi pensa di trovare i voti per le europee con i cani, i gatti e gli animali. Cita addirittura Maria Teresa, Madre Teresa di Calcutta. Sono nostri compagni, eterni amici, che niente potrà separare, perché sono vivi. Funzionerà la strategia di Berlusconi? Ma vedremo, caro Parenzo. Intanto, Feltri, ci sei? Però devi dire, sì, devi dire che anche il CNEL è forse sparito definitivamente. Forse definitivamente oggi. Ma veramente sono solo annunci per il momento, eh? Annunci. Il governo l'ha votato, speriamo, però intanto. Feltri, Berlusconi e le oggettine. Come si immagina le sere di Berlusconi adesso? Terribili, malinconiche, secondo me depresso. Per uno abituato con un condominio di oggettine, trovarsi tutte le sere con la minestrina e la Pascale, penso che non sia bellissimo. Ragazzi, poi uno si chiede perché spesso le trasmissioni satiriche non vanno bene in televisione. La Boldrini vera, cioè la Boldrini quella in carne e ossa, caro Parenzo, è molto meglio di tutte le imitazioni che si possono fare. Baldelli, che è il suo vice adesso, che la imitava benissimo, Paolo, Ajax, eccetera, eccetera. Anzi no, forse sono gli unici due che fanno l'imitazione della Boldrini, almeno quelli che si sentono e si vedono. L'originale è molto meglio. Senti la cazzata, si può dire al Presidente della Camera la cazzata che ha detto oggi? C'è sciocchezza. No, cazzata, si dice cazzata. Allora, il turismo e i migranti, persino tu credo che non sei d'accordo su questo, persino tu che sei il simbolo del politicamente corretto, il simbolo del buonismo di sinistra, il simbolo del PD, eccetera, persino no, tu. No, quale PD? Vabbè, del PD in generale, voti PD, dai, su. Sei il simbolo del PD, persino tu credo che non sei d'accordo su questa cazzata che ha detto la Boldrini. Allora, sì. In Italia c'è una contraddizione, dice la Boldrini, ascoltate bene questa cosa, state attenti per un attimo. Voi che siete lì ad ascoltare la zanzara. La Boldrini, che è la terza carica dello Stato, dice che c'è una contraddizione tra i servizi di lusso che diamo ai turisti, gli hotel a 5 stelle, e i trattamenti che riserviamo ai migranti, che a me non pare che proprio siano così pessimi, Cioè, non è che li buttiamo a mare, non li buttiamo ai pescecani, cioè vengono in Italia, stanno in queste strutture e poi si fanno i cazzi loro la maggior parte delle volte, Comunque, sentiamo la Boldrini. Non possiamo, senza una insopportabile contraddizione, offrire servizi di lusso ai turisti che affluiscono nel nostro paese e poi trattare in modo a volte inaccettabile i migranti che giungono in Italia da parti meno fortunati del mondo e spesso in condizioni disperate. Dai, è insopportabile, al di là della voce, eccetera, delle parodie che si possono fare, ma perché uno presidente della Camera... Ma non c'è nessuna relazione. Ma perché uno deve ascoltare dal presidente della Camera queste baggianate? No, queste... piuttosto poteva dire un'altra cosa, non c'è nessuna relazione, perché i turisti che vengono qui per scoprire vengono e speriamo che spendano anche tantissimi. Farinetti dice che al sud bisogna fare un unico grande Sharm el Sheikh, viene preso in giro, però secondo me ha ragione. Io penso che il sud sia in una condizione terrificante, è stato fatto troppo welfare nelle istituzioni. Per me il sud c'è una roba solo da fare, un unico grande Sharm el Sheikh. È presente quella roba in Egitto dove ci va tutto il mondo in vacanza? È uno dei posti più belli del mondo, facciamo venire i turisti di tutto il mondo lì. Serie non conto nulla, il presidente del Senato Grasso, va dall'Annunziata e dice che non è d'accordo sull'abolizione del Senato, o comunque l'abolizione, sul ridimensionamento del Senato così come previsto da Renzi. Io dico una cosa, se bisogna creare un pastrocchio in cui ci sono i sindaci, i rappresentanti regionali, che poi hanno voce anche su temi decisivi, allora è meglio abolirlo, cioè aboliamolo, ma perché non si, con un tratto di penna non si dice chiuso? Il Senato chiude, è stato bello, Fondazione Senato, sono stati anni meravigliosi, abbiamo speso un sacco di soldi, abbiamo pagato un sacco di gente, un sacco di funzionari, diventa una fondazione, Fondazione Senato, una bella targa e chiudiamo la sala cinesca. Grasso. Se si dà la fiducia alla Camera, se si dà... La Camera dei Deputati diventa un organo politico, dobbiamo togliere alla Camera alcune funzioni, fare del Senato una Camera specializzata che possa contemporaneamente in parallelo funzionare e completare il quadro democratico. In questi casi mi sento di dare ragione a Renzi. Io penso che questa cosa sia un errore, perché bisogna chiudere tutto. Chiudere altro che la Camera regionale, lì, i sindaci. In Germania c'è. Ma non mi interessa. Ma non mi interessa se c'è in Germania. Che vuol dire che c'è in Germania? Che vuol dire? Ma guardate che lo fanno anche in Germania, Ah sì, vabbè, è un'altra cosa. Vabbè. Un attimo che abbiamo un ospite, però prima il sindaco di Bari Emiliano, che sarà candidato pure alle europee per il PD, che dice. Senti che parola usa sui cambiamenti, una parola bossiana. Renzi sta litigando con questa cosa è chiara, sì. Sta litigando col Presidente del Senato, stiamo litigando con le burocrazie dello Stato, stiamo litigando con quelli che hanno fatto soldi sul declino dell'Italia e adesso abbiamo bisogno, lo diciamo chiaro, dell'aiuto del popolo italiano, allora, perché per cambiare tutta quella roba o prendiamo i fucili o lavoriamo nel modo in cui questa stiamo. Questa era una frase bossiana, no. Attenzione, non ci sono altre. Adesso non è che Emiliano ci può far credere che o c'è Renzi oppure ci sono i fucili per cambiare alcune cose, Dai su. No, dice, se no monta la rabbia della gente. Ma quale rabbia? Perché se non cambia nel Senato c'è la rabbia, dai su. Il Senato va chiuso, punto e basta, chiuso. Se non diminuiscono il numero dei parlamentari e dei senatori, cosa che dovrebbe essere prevista in questo panotto. Vabbè, stai zitto un attimo. È con noi Michela Biancofiore, buonasera. Buonasera. Come a voi? Andiamo? È sempre un piacere ascoltarvi. Come andiamo? Beh, dai, abbastanza. Senta, ma il cerchio magico esiste o no, secondo lei, intorno a Berlusconi? Scusi se inizio così, però ancora devo appurare... Ma no, Ma assolutamente no, non esiste un cerchio magico, ci sono delle persone evidentemente più vicine a lui e che evidentemente possono dargli dei consigli più ascoltati, ma il cerchio magico vero e proprio non esiste. Però Feltri dice che Berlusconi non è né malato, né come era purtroppo Bossi, e né tantomeno intorno a lui si compiono nefandezze, tutt'altro. Berlusconi è lucido e c'è qualcuno che non vuole capire, che vede che quello che magari altri dicono sono decisioni di Berlusconi e non se ne vogliono fare una ragione. Siccome il presidente purtroppo ha la caratteristica di voler convincere gli altri, ma non mai di volerli allontanare o di volerli o di volerli cacciare, e spera sempre che l'interlocutore che ha davanti capisca. Oggi il presidente vuole cambiare tutto, è del tutto evidente perché lo conosce, lo conosce. Può essere coloro che sono abbarbicati sulle loro poltrone da 20 anni. Purtroppo è Feltri dice che in realtà Feltri dice che sembra Bossi, cioè attorniato da quelle ragazze lì, da quelle donne che sono intorno a lui, la Rossi. Intanto quelle donne lì, una è la segretaria e l'altra è la fidanzata. Ah, le donne, ma diciamo a chiamare le no, ma non nome, in senso insomma, dispregiativo, ma io dalle donne. Ma no, lo dicono in senso dispregiativo, ma sa, purtroppo una cosa è vera. Ma Feltri è generoso? Feltri è generoso nei confronti di Berlusconi. Feltri tantissimo e non capisco perché abbia fatto questa allusione, anche perché non credo che frequenti casa Berlusconi così tanto da poter giudicare o conosca alla perfezione queste due persone, insomma, francamente. È chiaro che anche Feltri è indotto in errore da tutta un buttare di persone che, non avendo accesso più di tanto a lui, ma per sua scelta... Ma lei che fa quando deve chiamare Berlusconi? Lei che fa? Ai club, ai tante persone, chiamo in segreteria semplicemente, punto e basta, oppure chiamo la Rossi. Chiamo lui, chiamo Arco, ma dice che non ce l'ha più il cellulare diretto. Prego? Il cellulare diretto lo ce l'ha ancora o no? No, ce l'ha più. No, io non ho mai avuto il suo cellulare diretto, punto primo, punto secondo non ha più il cellulare. Ma l'ha vista lei quelle sempre ascoltato da tutto e da tutti, era come se avessimo il presidente del consiglio in stereofonia in mondovisione, quindi che cosa gravissima, perché come sapete un parlamentare non può essere intercettato tanto. Senta, ma che succede se il 10 aprile Berlusconi va ai domiciliari e non può più parlare? Lei che fa, per esempio? Che iniziative può prendere? Parla lei. Guardi, lui. Io non posso prendere gran poche iniziative se non quella di continuare a fare politica. Vabbè, con quello, vabbè, d'accordo. Nel suo segno, credo di aver sempre interpretato la sua pancia, innanzitutto, cioè quello che lui vuole che politicamente si porti avanti, la pancia che lui interpreta del paese. Ma che magari può registrare delle cose prima, vada a registrare delle cose. Sicuramente, guardi, sono certa, non lo so, la precisione. Però sono certa che il presidente stia escogitando qualcosa. Speriamo che i giudici di sorveglianza siano, come dire, capiscano di avere a che fare con. Ma se decidono di non far parlare Berlusconi durante la campagna elettorale, cosa sarebbe? Un condannato che è innocente, lasciatemi dire. Vabbè, quello è un altro discorso. Tutta Italia, guardi, con qualsiasi giornalista io parli, di destra, di sinistra o di centro, con qualsiasi giurista. Non c'è uno che ti dica che solo quelli che l'hanno condannato. Ricordiamolo sempre che Berlusconi è stato condannato per un reato considerato improprio, perché Berlusconi non firmava i bilanci di però mese, scusi un attimo, tra l'altro era stato scagionato da un'identica sentenza. Ricordiamole, perché chi ascolta sappia che l'Italia sta crollando sotto il peso di una pesante ingiustizia democratica. Vabbè, l'Italia sta crollando, l'Italia non crollerà, l'Italia per fortuna sta crollando e purtroppo credo che non sarà vita facile. Cioè, per colpa della condanna a Berlusconi, l'Italia sta crollando per colpa della condanna a Berlusconi? Beh, per colpa di 20 anni di guerra giudiziaria fatta a Berlusconi. Vabbè, l'Italia crolla per altri motivi. Se crolla Giuseppe, per altri motivi. Mio caro Giuseppe, mio caro David, se 20 anni fa a Berlusconi fosse stato concesso di governare esattamente che come sarebbe ha fatto l'Italia oggi? Settori, che sarebbe l'Italia tutti oggi? Tutti i settori nei quali ha operato, dal calcio al cinema, l'Italia lo sport, cosa sarebbe alle case, oggi? L'edilizia, eccetera. Oggi l'Italia sarebbe un'altra Italia. Cioè, come? E questo, i 92 milioni di italiani che lo hanno votato in questi 20 anni, ne hanno perfettamente coscienza e sono anche molto investiti. No, ma l'Italia sarebbe come? Sarebbe come la Svizzera? Come la Svizzera magari no, perché purtroppo ha ragione Renzi in questo, le strutture burocratiche italiane difficilmente si concedono di... Sarebbe il Bengodi. Ma sicuramente ci sarebbero molti più investitori internazionali, sicuramente girerebbe molto più denaro, meno poveri. Gente non sarebbe povera come adesso, ci sarebbero più posti di lavoro, l'economia funzionerebbe, l'edilizia volerebbe. Io di questo ne sono addirittura certo. Cioè, se Berlusconi fosse stato lasciato a via strada, assolutamente insomma la storia delle persone parla da sé. Un attimo solo, c'è da aggiungere. Un attimo solo, traffico. Lei ha il cane, lo utilizzerà in campagna elettorale? Il mio cane, lo sapete bene, è la mia mascotte, ma lo utilizzerà o no? Sta sempre con me. non lo utilizzerò, è il mio, è un amore assoluto, sta sempre con me, quindi tutti sanno. Poi le chiederò se ci sono novità, degli animali e dei cani, però ci sono, le chiederò se ci sono novità. Traffico. Le zanzare. Oh, amore mio, fate bene, salutami a Biancofiore. Sì, la salutiamo, Annarella è con noi, Michela Biancofiore, Forza Italia. Però le voglio chiedere subito, ma non le scoccia un po' che questa abolizione del Senato, anche se poi non si tratta di abolizione, come abbiamo detto, no, perché non l'avete fatta voi? Cioè, sto Renzi vi sta superando. Ma veramente l'abbiamo, ma veramente, tutti dimenticano che noi l'abbiamo fatta come nel 2001, vabbè, ma insomma, abbiamo fatto la riforma costituzionale che poi è stata purtroppo affossata da un referendum voluto. Però alla fine ce l'ha fatta Renzi, su, alla fine ce l'ha fatta, almeno in apparenza, ma per il momento. Scusi, Giuseppe, ma cosa ha fatto Renzi? Un annuncio, uno dei tanti annunci? Beh, disegno di legge, ha presentato disegno di legge, mo vediamo. Ho capito, ma deve essere votato il disegno di legge. Adesso lei pensa che i senatori lasceranno, a partire dal Presidente del Senato che avete giustamente mandato in onda prima, sì, cioè, pensate che lasceranno così indenne il disegno di legge voluto da Renzi, che è parzialmente condivisibile, parzialmente no, senza alcuna discussione, e si faranno, come dire, discussioni, cancellare, ce ne sono state fin troppo, legittimamente eletti, questo vedremo, dal popolo sovrano, questo vedremo. Quindi, c'è una cosa che mi ha incuriosito molto prima, di cui nessuno tiene conto, cosa? E anche voi stessi, e anche che ha detto prima Emiliano nella telefonata che avete mandato in onda, cioè lui parla di popolo che prende in mano i fucili, ma vogliamo ricordarlo che dietro Renzi non c'è assolutamente il popolo, perché Renzi non è stato votato democraticamente da nessuno. Vabbè, quello... No, perché insomma, forse se poi su lui allude ai 1.800.000 persone, forse, che hanno votato alle primarie, beh, adesso ci saranno le elezioni europee, gente che è stato eletto per... Senta, ma lei li ha visti quei manifesti pazzeschi di Alfano che compaiono sulle strade? Li ho visti. Alfano che dice insieme mi fa ancora più sorridere. Alfano che dice? Dice insieme. Ah, beh, quello è agli elettori, no? Quello agli elettori. Ma sì, no, ma quella è la cosa che mi fa molto sorridere, perché insomma, se lei pensa che io ero coordinatore regionale del Trentino-Alto Adige, lui era segretario del mio partito, e no, in due anni non mi ha concesso neanche un appuntamento, se lui si comporta così nei confronti dei suoi adepti. Vabbè, significa che non gliene fregava niente di incontrarla. Ma non è che, ma quello non deve, non può fregarle, non può fregarle, un dirigente ha il dovere di incontrare i suoi coordinatori, questo non c'è tra niente, poi la gentilezza, l'interesse, l'amicizia, queste sono altre cose, ma la politica si fa con la coerenza e con la correttezza, cosa che purtroppo non si aspetta, purtroppo. Ma, non è, ma lei di pur di non votare Alfano voterebbe Dudu? Cioè è preferibile il partito. No, d'accordo, ma è preferibile tra Alfano e Dudu, non c'ho dubbi che io preferisco Dudu, su questo non ci sono dubbi, non lo voterei perché non è, chiaramente non fa politica, però tra Alfano e Dudu io non ho proprio dubbi. Addirittura? Assolutamente. Cioè, secondo lei, per esempio, Dudu non c'è paragone a livello, diciamo, di fedeltà nei confronti di Alfano? Cioè, a livello, mi scusi, di fedeltà, cioè di un altro... Cioè, di fedeltà, ma nel caso di un uomo, di lealtà, non, di c'è lealtà. Proprio, non ci sono proprio paragoni. Ma secondo lei Alfano vuole Berlusconi morto? Ma adesso non più, adesso lui si sente affrancato, c'è stata una fase in cui sperava che lui non esistesse. Ma ha visto quella faccia? Per la verità la vuole ancora, lo vuole ancora adesso. Quella faccia rivolta in alto con quei pugni chiusi, chiusi. Sì, l'ho visto, mi fa molto sorridere, Ha detto che siete estremisti, non... Ha detto che siete estremisti, lui... Ma noi saremo estremisti, lui è stato il capo del tante partite estremisti così della nazione, allora mi piacerebbe capire perché. Sì. All'epoca queste cose non le diceva, eppure andava a braccetto con Verdini, con la Santanchè, con Cicchito, con tutti questi, insomma lui ha con ci va la ancora. Destra, con la destra ovviamente confluiva apertamente, questi personaggi che poi postumi scoprono di essere dei moderati ad oltranza, ma poi moderato cosa significa? Davide, secondo te è successo... Anche al presidente che non mi piace questa parola moderato, che significa? È successo qualcosa secondo te tra la cagnetta di... alla fine, perché eravamo rimasti a un approccio, la tappa successiva, è successo qualcosa tra... ci dia qualche novità, che siamo qui... Assolutamente no, si vogliono sempre molto bene, sono assolutamente empatici, come ha detto il suo veterinario, si vogliono molto molto bene, ma non è successo assolutamente nulla, la mia è una cagnolina ben educata. Ma che c'entra? Faranno anche le vacanze insieme quest'estate probabilmente o no? Manca ancora, ma mancano ancora un sacco di mesi. Non l'hanno mai fatta insieme, non credo, insomma, io poi si sa che amo i mari lontani, quindi la porto con me. Come però io dico una cosa, a lei Renzi comunque continua a piacere, personalmente continua a piacere molto. Io sono molto delusa da Renzi. Addirittura? Spererei, molto molto delusa da Renzi, perché si fa, dice, parla. Cioè è passata dall'entusiasmo per Renzi adesso alla delusione. Ma sì, perché basti pensare all'Italicum, dove si è fatto condizionare da un partito che ha 132.000 voti per cancellare un'intera regione, per dire tutta una serie di cose, ha una maggioranza che è la stessa di Letta, io da lui mi aspettavo coraggio. Se lui vuol fare veramente le riforme, che la deve soluzione fa? C'è, fa una grossa coalizione vera. La grossa coalizione tedesca, con Forza Italia, ma figuriamoci. E Forza Italia e basta. E caccia Alfano, e caccia Alfano. Basta. Dai, insomma, non succederà mai. Alfano da tutti i sondaggi, anche quelli di SVG di oggi, va sotto il 4%. Ma europeo. se non entra al Parlamento europeo, lei gode? Lei gode come una, diciamo la verità, gode come una matta. Ma io non godo di queste cose, non godo dei mali altrui, francamente. Vabbè, se non entra al Parlamento europeo, però insomma. Mi disinteresso, ritengo che non possa entrare al Parlamento europeo. Vabbè, vedremo. Il suo partito è fatto di scontenti, di raccogliticci scontenti. Raccogliticci scontenti, addirittura. Raccogliticci scontenti, sì, di gente che non ha avuto il posto. Lei ha detto addirittura prostituti morali, una cosa del genere. No, ho detto che ci sta anche la prostituzione morale, certo, perché erano tutti quelli che prima si genuflettevano al cospetto di Berlusconi e infatti hanno avuto ruoli a partire dal Fano in giù di tutto livello, dopodiché quando hanno pensato che Berlusconi fosse defunto. Prostituti morali, però mi sembra eccessivo, prostituti morali, non è biancofiore. Prostituti morali, la prostituzione non è altro che il dout des, dare per ottenere, e loro hanno fatto sempre soltanto questo. Un attimo solo, un attimo solo. Sono tanti anche adesso. Un attimo solo. Giornale Radio. Vi ricordo, popolo della Zanzara, che è in corso la grande asta per aggiudicarsi le magliette di Antonio Razzi. Una ce l'ho io qua. Collegatevi col nostro live sul sito della radio. Radio24.it, potete vedere questa maglietta com'è fatta, ce l'ho addosso nella webcam. Mamma mia, chissà quanto è sporca ormai. No, che sporca, l'ho messa oggi. No, è nuova di pacca. È nuova di pacca. Te lo dico d'amico, fatti i cazzi tuoi. Ecco, questa è la scritta che c'è. Poi la usi in modo improprio, diciamo, in contesti impropri. Fate le vostre offerte. La Zanzara, siamo a oltre. Quanti soldini siamo? Siamo. La Zanzara è radio24.it, le vostre offerte per la maglietta di Razzi. Vi ricordo, potete offrire dai 20 euro in su, però vi dico che il minimo che è stato offerto, siamo oltre 50. I 20 euro. Siamo più o meno. C'è gente che ha offerto 200, 250, eccetera, eccetera. Poi tra un po' diventerà un oggetto rarissimo, perché Razzi non oggetto sarà più candidato. Oggetto di culto. Ma chi ha detto che non sarà più candidato? Addirittura qualcuno pensa che si debba candidare alle elezioni europee. Sì, perché porta voti, con Razzi è diventato paese, con Crozzi è diventato famoso. Senti questo inedito Razzi, addirittura a Radio Padania. Uno la accusa di essere un politico troppo legato ad interessi personali. Allora le chiedo, che cos'è la politica per lei, senatore Razzi? Guarda, io vorrei in prima domandare agli italiani, ma non solo agli italiani, a tutto il mondo, chi è che non pensa a se stesso? Ne dovrei trovare uno che dice no, io non penso a me stesso, perché uno che ha la famiglia deve premiare. Per rispetto dei figli e della moglie deve pensare alla sua famiglia, la prima cosa necessaria. La Corea del Nord è come la Svizzera, senti questa. Apprezzo che c'è una somiglianza molto alla Svizzera, dove io ho vissuto per oltre 40 anni. E le persone sono precise per quando si danno gli appuntamenti. E poi c'è una pulizia per le strade molto molto pulita. E questa è una cosa che mi ricorda la mia Svizzera. Allora, ci sono due cose: le persone sono precise quando si danno gli appuntamenti e le strade sono molto pulite in Corea del Nord, caro Parezzo, eh? Sì, capito. L'asta la stiamo facendo perché ha un aspetto benefico, non grottesco. Senti, benefico. Batti l'asta a modo tuo, dai, batti l'asta a modo tuo, vai. Quante magliette mancano? Dammi un dato però. Lo so, mancano 70 magliette. Allora, cari amici della radio, di Radio 24, del mio amico Squinzi, che si deve sentire bene il nome, sono Vanna, la signora Vanna Marchi, l'unico Marco che vale ancora, non come quello della Merkel. Io vi dico che mancano 4 magliette base d'asta 20 euro, d'accordo? Ora partiamo con l'asta. E oltre questa, oggi mi voglio rovinare, Stefania, la figlia sarebbe solo Nobile, di cognome Nobile. Mi voglio rovinare. Oltre alle 4 magliette vi voglio dare anche del sale, che se avete del mal di pancia è curativo. E come il sale? 200.000 euro! Solo 200.000 euro! Come 200? D'accordo? 200.000 euro! 200.000 euro è un affare, cretino! TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Il governo vara all'unanimità la riforma del Senato. Renzi, grande svolta per le istituzioni. Fra pochi giorni il DEF, a Pasqua decreto sui tagli IRPEF. Come cambia il Senato? Stop al bicameralismo, all'elezione diretta dei senatori, alle indennità Grasso, libero di avere le mie opinioni. Forza Italia torna a chiedere che venga data priorità alla legge elettorale. Rispetteremo gli accordi, dice Berlusconi, ma Renzi sia coerente. Dopo la disfatta elettorale, Hollande procede a un rimpasto di governo. Tra un'ora il nome del nuovo premier, l'attuale ministro dell'interno, Manuel Valls. Al processo sulla gestione della centrale Enel di Porto Tolle, condannati a 3 anni per disastro ambientale gli ex amministratori Tatò e Scaroni. In una clinica romana una bimba di 10 anni muore durante un intervento all'orecchio. La famiglia denuncia l'equipe medica, 7 gli indagati. La Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA dichiara illegale la caccia alle balene, ne sentenzia lo stop. Il Giappone si adegua con rammarico e delusione. Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Domandona della serata, caro Parezzo, è più comica la Boldrini imitata o la Boldrini originale? Partiamo da quella imitata. Quella originale alle volte è drammatica, non aspetta, è comica. Aspetta, partiamo da quella comica. Simone Baldelli, che oggi è diventato il vicepresidente della stessa Boldrini, ma anche più volte l'ha imitata. Bianca, Bianca, Romano Prodi, Marini, Rodotà, Raffaello Mascetti. Non mi moleste moschito. Non mi moleste. E sentiamo quella di Jazz. Non mi moleste moschito. Presidente Boldrini, buonasera. Presidentessa, ben trovati. Protagonista della settimana politica è stata la discussione sulle quote rosa. Che ne pensa? Intanto mi lasci dire una cosa. Sì. Trovo che la parola rosa sia violenta e sessista. Ma come, scusi, rosa? Rosa, un sostantivo maschile, il rosa. Per descrivere le donne, dire rosa ad una donna equivale a darle un cartone in faccia. Ma scusi, ma è rosa, lei come direbbe? Rosessa. Ma Rosessa non esiste. Non me moleste moschito. Ma guardate che fa meglio l'originale, secondo me, fa più ridere l'originale. Quando dice, beh, siccome ci sono gli hotel a 5 stelle che accolgono i turisti, c'è un contrasto forte tra questi alberghi a 5 stelle che accolgono i turisti e il modo in cui accogliamo gli immigrati. C'è un contrasto. Non c'è relazione tra le due cose. Ma non c'entra nulla, cara Boldrini. Niente, non c'entra. Ma perché io dico. Cioè, è vero che i clandestini vengono accolti male. Ma quando mai? Non è vero per niente. Abbiamo ma non c'entra con gli alberghi a 5 stelle. Alla Camera ci sono dei bravissimi scriba, no? Uffici stampa pletorici. Capi uffici stampa, gente che fa la comunicazione, è pieno al Senato, alla Camera, dove era Boldrini, ma non c'è nessuno che controlla un discorsino per evitare queste figure di tolla. Non possiamo, senza una insopportabile contraddizione, offrire servizi di lusso ai turisti che affluiscono nel nostro paese e poi trattare in modo a volte inaccettabile i migranti che giungono in Italia da parti meno fortunati del mondo e spesso in condizioni disperate. Gianni da Forlì, buonasera. Ciao Crociani, buonasera. Dica. Senti, c'hai una bella faccia di bronzo. Bella, bella bronzo. In che senso, scusami? Perché ovviamente senza offesa. Ma no, ma puoi anche offendere se vuoi, non c'è problema. No, qui riceviamo tutto, prendiamo pietre. Vabbè, prendiamo se pietre. Ti trovo per strada magari ti offendo, ma ora così al telefono proprio no. Dai. Ma non si capisce perché mi dovresti offendere, scusa, per strada, spiegami. Ma così perché, perché non c'è niente da fare dalla mattina alla sera, che ti frega? No, guarda, in questo momento sono a lavorare. E che fai? Che fai? Non ho capito. Io sono un artigiano. Sei un artigiano, cioè l'artigiano di che? Io faccio macchine automatiche per la produzione industriale, ma comunque non è quello il problema. Cioè, quello che ti volevo dire io è che un lavoro oggi vale l'altro. Purtroppo quel lavoro si faccia, i soldi servono per pagare gente come la Boldrini o come te, perché non c'è nessuna differenza fra te. No, guarda, la Boldrini viene pagata dallo Stato, noi non c'entriamo niente. Mi piacerebbe così. La mia azienda il contributo che è alla tua. Ma quale contributi? Ma smettila, non c'è nessun contributo qui. Le cifre, dai. Non c'è nessun contributo, guarda, non c'è nessun contributo. E quei pochi e quei minimi contributi che ci sono, che riguardano l'editoria. E in parte minimi. Ma mi piacerebbe averli minimi come li avete voi. Ma come minimi? Ma non si può dire che un'azienda, rispettando la concorrenza leale con le altre aziende, possa ricevere contributi come quelli. Non c'è nessun contributo. No. Guarda, non c'è nessun contributo a questa trasmissione, alla radio, da parte dello Stato. Non c'è alcun contributo. Vabbè, no, ma è così, non c'è alcun contributo. Ci sono a tutti i giornali e le radio. Ci sono dei contributi alla radiofonia in generale, che per me peraltro andrebbero soppressi, ma che ovviamente ma non cambia nulla, cioè non spostano di un millimetro, siamo sul mercato, capito? Se non si funziona si va a casa, è normale che sia così. Però perché se anch'io sono sul mercato a me lo Stato non mi dà niente? Io devo magari lavorare su ma non è la stessa cosa. La differenza delle 100 a quelle date voi. Non è la stessa cosa. Anche delle agevolazioni fiscali. Io faccio eccellenza, faccio professionalità, faccio ricerca e mi danno solo calci in culo. E allora ti dico, la differenza fra te, Parenzo che prendevi in giro prima, la Boldrini, non esiste. Vabbè, ma che tutti parte di un sistema, ma di quale parte di un sistema della mente che serve a far andare la gente come branchi di pecore nella stessa direzione. Allora, questo qua è così sta. Stai andando a ruota libera, dai. Fai parlare la Biancofiore e facendo credere ai tuoi ascoltatori che esiste davvero un contrasto tra i politici e nel sistema di quelli che contano davvero. Sai benissimo anche te che è tutta una recita, come è stata con Storace, come è stata con Fini, come la sinistra. Senti, se non ti piace cambi e non ci rompi le scatole. Qual è il problema? Una persona coerente, perché dovresti cascare nell'incoerenza di parte di questa recita? Ma quale recita? Quali sono tutti d'accordo per me? Parenzo, zitto, per piacere, guarda. Ma veramente, Parenzo, non sto più parlando, caro Gianni. Tranne che te, che difendi i culattoni, gli animalisti vegetariani, ma questa sboccata, le puttanate femministe e tutte le stronzate da Maurizio Costanzo e altre cose che si sentono nella televisione. Ma questo che gli hai preso stasera? Gli animalisti, quindi, guarda, è impazzito. Sto parlando con Crociano. È impazzito totalmente. Prego Cruciani, certo. Arrivederci, Sergio da Napoli. Ah, pronto, buonasera, dottor Cruciani. Senta, volevo dire una cosa molto brevemente, se possibile. Come mai lei fa sempre la parodia dell'inflessione dialettale delle persone che chiamano dal sud, mai dell'inflessione dialettale delle persone che chiamano dal nord? Cioè, ogni volta che qualcuno telefona, magari dalla Sicilia, dalla Calabria, lei si diverte un po' a scimmiottare, a fare la caricatura del loro modo di parlare. No, la facciamo anche di quelli che parlano in Veneto, in Lombardo, se c'è qualcuno che ha un'inflessione. Lei non lo fa mai. Comunque, grazie. Guardi, non ho alcun pregiudizio nei confronti delle persone del sud. Lei per me è il migliore in assoluto, grazie, arrivederla. Vabbè, ciao, ci sentiamo tra un attimo. zanzara, mamma mia, no, che fastidio. Ruggisce tutta la notte. Allora, questo famoso CNEL, che è un organo dello Stato inventato Padri costituenti. Sì, nel 48, non serve assolutamente a nulla. Pare sia giunto al capolinea. Al capolinea, finalmente. Dice Renzi, poi bisogna modificare la Costituzione e tutto. Cioè, è una procedura molto, molto lunga perché ci sono le imboscate in Parlamento, eccetera, eccetera. Ma noi ricordiamo solo una cosa del CNEL: la magnifica telefonata di Mario Borghezio, parlamentare europeo, in diretta al centralino. A un certo punto gli passano il portavoce del presidente del CNEL. Sentite. Gli 80 dipendenti del CNEL o li paghi qui o li paghi da un'altra parte, sempre a pagarli lì dentro. Continuano sempre a fare un cazzo anche da un'altra parte. Esattamente quello. Poi il Allora ci siamo resi conto che di un altro capitolo incredibile del buco pazzesco dei misteri dei ministeri e di tutto quello che viene previsto in questa carta costituzionale piena di enti, di sigle di cui il cittadino non riesce a raccapezzarsi, che non si sa anche bene che cavolo servano. Io non so come non si vergognino questi qui che prendono questi 80 stipendi che non servono assolutamente a niente. Ecco, questo pirla qua di Paperopoli adesso si è deciso in ritardo, doveva essere fatto 50 anni fa. Era stata una grande stronzata dei padri costituzionali. Questa è la verità. Il CNEL non serve a un cazzo! A un cazzo! A un cazzo! No, no. Lo sbrocco di Marione Borghezio. Ma era non si poteva fermare su Borghezio. Quindi vai a cercarne un altro. Oh, ma tu lo sai che cosa è accaduto domenica? Domenica c'era la tua amica Stefania Nobile. Sì. Domenica Live. Ero all'estero, a Parigi. Sai che le Iene hanno fatto un servizio in cui hanno smascherato l'adorabile fidanzato della signora Nobile, no? Ma vogliamo ricapitolare una bella famigliola, quella lì, una bella famiglia. Vogliamo ricapitolare quello che è successo? Due ragazzi vanno al ristorante, sì, gestito una coppietta di sposini da Stefania Nobile, sì, e l'ex fidanzato, e alla fine c'è la sorpresina. No, vedono che c'è un menù a prezzo fisso, vabbè, concordano. E no, vabbè. Poi c'è la sorpresina. Ho detto un signore si avvicina e gli dice: perché non prendete anche un antipastino? Senti. Si è avvicinata Stefania Nobile. Lei ci ha portato i menù. Io ho avuto il tempo di prenderlo, di dargli un'occhiata velocemente, e poi lei ha detto: vabbè, facciamo che vi consiglio io. Allora ci ha ripreso i menù. Gentile. Gentilissima. Nell'attesa della preparazione del piatto ci consigliava degli antipasti. Noi ci siamo fidati. Due scampi, due carabineros, che sono quei gamberi rossi, e due gamberoni normali. Erano infatti, sei pezzi erano, a testa. Sì, esatto. Intanto per stuzzicare prima di arrivare al piatto di portata. Esatto. Sì. Sapevate che il conto sarebbe cambiato. Sì, pensavamo che potesse costare 30 euro in più. E invece? Ci è costato più di 400 euro. Come si giustifica? D'accordo! No, beh, in questo caso non sono d'accordo. D'accordo! Allora. 400 euro uno scampino, eh? D'accordo? Senti come si giustifica, eh? A me dispiace per questi due ragazzi, per carità. Certo. Però se loro avessero chiesto il plateau e basta, loro avrebbero mangiato. Ma il plateau cos'era? Scusami. È il plateau di crudité, sai, con le cose azzurre. Due piani con ostriche, hamster, tufi, cozze pelose, cannolicchi, cioè tutto conchiglie, tutto conchigliame. Conchigliame e conchigliame. Conchigliame, d'accordo? Dovevano limitarsi a prendere i piatti concordati, invece hanno chiesto altro. Però non c'era il prezzo, non c'era scritto il prezzo. Piccolo dettaglio, no? Che cosa? Allora, Barbara, ascolta. Allora, se parliamo, io sono stufa, io vado in un posto, è colpa mia. Allora, questo mi dà fastidio, ok? Se io lavorassi alla Fiat, voglio dire, non è che divento fidanzata di Lapo, e tantomeno se uno va a comprare una macchina e c'è un'offerta, poi va là e mette il volante, lo stereo, il tettuccio apribile, l'aria condizionata, le ruote motrici, il coso, e la paga 10.000 euro in più, non è colpa di Stefania Novic, cioè adesso basta. Se ne guarda, se ne guarda. Hai capito? Cioè, quando uno ordina il menù... Sì. Però, cara Stefania, quando tu vai in un rivenditore di auto, non è che dici, ci penso io, ti metto io lo steretto in più, ti metto io il Dolby Stereo, ti metto io... Ti dicono, guardi che costa questo, in genere. Invece che hanno fatto, secondo te, su? No, cosa hanno fatto? Hanno fatto quello che hanno documentato le Iene, è evidente cosa hanno fatto. Gli hanno portato le cose, poi cioè, hanno... dillo esplicitamente, secondo te sono dei truffatori? Ma questo non posso dirlo io. Lo diranno hai loro. Hai paura, che sono... hai paura. Ma non ho paura, dillo. Di niente, ma figurati se ti metto a pagare le a dare hai anche paura, due... per dillo. Una frase. Figurati se per una frasetta di troppo mi metto a dare altri soldi all'adorabile famigliola. Ma perché già hai dovuto sborsare qualche quattrino? No, però voglio dire, tra le tante persone a cui le posso dare per diffamazione, le ultime sono loro, guarda. Le ultime. Marco da Genova, buonasera Marco. Eccomi, ciao, buonasera. Dimmi. Sto a morire dal risale qua ascoltandoli, siete unici proprio, però vai, il discorso vai. Che io l'ascolto sempre praticamente, a me il discorso del Senato, rendetevi conto che abolire il Senato vuol dire dare più potere a loro, cioè secondo io la vedo così, adesso più potere una... a loro a chi, scusa? A loro al fanno camera, alla camera beh, certo, la camera diventa l'unica elettiva, diventa l'unica che dà la fiducia, eccetera, eccetera. Certo. Però, tu immagini, adesso il tempo che ce lo mettono a cadere è lungo, perché loro che fanno? La legge la mattina, passa una settimana, 10 giorni, un mese, arriva al Senato riparte, ritorna alla Camera, eccetera, eccetera. Vabbè, allora? E poi piano piano ce lo mettono dietro. Facendo abolendo. Lo mettono dietro a chi lo mettono dietro? Non capito, a chi lo devono mettere dietro? Ma parte delle leggi. Senti un attimo, io credo che il discorso delle leggi, le ultime leggi che hanno fatto e tutto quello dei cambiamenti, sono state solamente leggi non tanto per il discorso italiano per portarli avanti, ma è stato proprio un qualcosa di negativo. Ecco, no, ma non ho capito Marco, di... vogliamo andare al punto. Ti piace il fatto che il Senato... Secondo me, io penso che a me piace il discorso di fare una... come sta facendo Renzi, il discorso di una reale vabbè, arrivederci, Mauro da Mantova, e che cazzo, dai, Mauro. Paraculo. Oh, Mauro! È un bel paraculo che è, L'ennesimo, l'ennesimo telefono finto, l'ennesimo numero farlocco? Ma no, otto numeri io. Otto sei, numeri, sei, Mauro sei da... Io voglio incontrare Mauro da Mantova prima o poi. Gustibus. Dai. È meglio che non mi incontri il tuo galoppino... Cogliarenzo, gli do la cinquina che lo stendo. Com'è che l'hai chiamato? Testata in testa bisognerebbe dargli a questo. Cogliarenzo. Cogliarenzo. Che cos'è? Se non un enorme coglione. Bisognerebbe dargli una testata in testa, boom, improvvisamente, così poi dopo riprendere a chiacchierare. Lui è, cioè non è, praticamente, non è. Non è, non telefoni è. Per dire perché lui prima quando faceva quell'imitazione cioè mi veniva la voglia di prenderlo a badilate sul muso, ma a tutta forza, a badilate, è di un'antipatia inaudita. Ma perché è reciproco, è abbastanza proprio reciproco. Se le tira, lui proprio se le tira, se le cerca proprio. Ma perché che ha fatto? Faceva l'imitazione della Nobile, anche molto bene peraltro, della Marchi. Ma di chi? Ma della cosa della mamma della Nobile, che era la porco Giuda, che non mi ricordo, la Vanna Marchi. Sì. No, no. Vanna, ascolta, dimmi. Lui ha una voce di merda che farebbe incazzare Sant'Antonio. Sì. Lui con la voce di merda che ha farebbe incazzare Sant'Antonio e San Francesco e anche Papa Giovanni XXIII se fosse ancora vivo. Vabbè, questo è buono però quando uno fa arrabbiare le persone, no? No. Il suo ma è un coglione, l'ha preso a calci in culo. No, dai, su, ma... Suppresso. Allora, quello che serve... No. Allora, Parenzo serve come una stufa in Sudafrica, un climatizzatore, però non serve niente. Guarda che in Sudafrica ogni tanto serve. C'è l'escursione termica. Lui. Ogni tanto serve la stufa. Vabbè Mauro, ma che vuoi dire? Sei intervenuto per dire cosa? Spiegami. Ascoltami, scusami, ma qualcuno l'ha avvertito Renzi? Di che cosa? Quello che mi ha impedito di dire il mese scorso, che dietro Renzi c'è il chip di De Benedetti di Prodi, ma perché quello che mi ha impedito di dire io un mese fa l'ho detto giovedì scorso al CGCOM 24, fatemi sfatti da rigori, dov'è che l'hai detto? No. Fatemi sfatti da rigori. Ma perché fanno intervenire te a fatemi sfatti da rigori? Sì, signore. Ma perché sì? Signore. Ma dai, ma dai, ascolta, ma perché ti devo dire una cagata? Perché ti devo dire una cagata? Ma che io non mi sia mica Parenzo, Ma guarda che io non sono mica un pagliaccio. Allora, io non ho capito, Mauro, ma che cosa hai chiamato a fare? Perché mi scrive l'altro sei, perché qui non sei. Che? Fammi sentire, chi c'è? Chi è? Fammi sentire. Aspetta, vediamo subito chi è. Vediamo. Se non ho spiegato lo mando a fanculo. Vai, fammi sentire. Niente, vai. Quel giorno che qua. Beh, ecco, non hai risposto. No, un coglione, è uno che non vuole spendere soldi, quindi è un coglione. È uno che? Che non vuole spendere soldi. Fa gli squilli. per non spendere, cioè siamo ancora rimasti a quelle cose lì. Beh, sarà un ebreo, gli ebrei sono come genovesi. Eccolo qua, eccolo. Beh, sono pidocchiosi. Ecco l'imbecille. Ascolta, ce l'ho io un amico ebreo. Ma sai cosa mi ha chiesto? Cosa? Mi ha chiesto 50 centesimi. Ho detto, vuoi che ti sputi in faccia subito? Ma o chi? Cioè, ma chi? Andrebbe preso proprio a calci. Allora, io ogni tanto esco con uno sfigato, sì, che è il nipote del marchese Sordi, qui di Banco. Aspetta, rispondi, che... rispondi. Rispondi, hai già messo giusto, sfigato? Ma che lavoro fa, non so, Mauro? Non so chi cazzo è. Ma Mauro, che lavoro fai? Scusami. Mauro, che lavoro fai? Da quando è andato su quell'idiota di Monti non faccio un cazzo da 3 anni. No, allora chi è questo che ti chiama al telefono? Ma chi è che ti... che sia uno che ha bisogno... perché è uno dei rappresentanti del colorificio, quindi vuol dire che... Del colorificio? Ma che lavoro fai? Chi sei? Ascolta, io riparo auto d'epoca. Te l'ho già detto, io ho riparato... Allora, 4 anni fa... Sì, ma che c'è? Una carrozzeria? Che hai? Io lavoro in giro per le carrozzerie. Allora, 5 anni fa sì, sono andato a lavorare... Ma perché no, 5 anni? No, perché mi devi raccontare di 5 anni fa? No, soprattutto, perché sono oggi sono andato hai a lavorare per quel coglione di chi? Di Montezemolo, la Maserati. Oddio, ancora questo Montezemolo. Sì, per tirare una fattura, cioè il restante, perché mi ha dato il 30%. Sì. Vabbè, per avere tutti i soldi il che ha dovuto fare. Il 30%, dopo un mese e 3 settimane che ho erogato la fattura, sono dovuto andare là a chiamare il 113. Sì, addirittura. Ti giuro sulla vita di mia figlia. Io non ho capito, Mauro, io ma non tu sparo cagato. Stasera, io, che cosa è, realtà. Stasera cosa hai chiamato a fare? Questa è la domanda. Vabbè, vera. Allora, fatto il 113, ho detto... Buongiorno, sì, io sono un cardiopatico perché il mese scorso non sono riuscito a parlare perché ho chiamato il 113, guardi. Ma quale 113? Quello di Modena. Allora? E io ho detto, guardi, io sono in difficoltà, sono cardiopatico, detto, è un mese e 3 settimane che aspetto di essere pagato. Chi è questo per qua, il mio lavoro, o venite qua a farmi dare il mio segno, sì, o io entro negli uffici della Maserati con la macchina. Vabbè, allora? E mi ha detto, no, guardi, 5 minuti siamo lì. Arrivano, ho detto, mi fate avere i miei soldi, io entro in macchina con la dietro nell'ufficio della Maserati. Allora fa, ma no, no, si è calmo. Siamo andati là. Vabbè, ma che ce ne frega a noi di come hai avuto i soldi? Che ce ne frega a noi? Ma siamo messi così in Italia. Qualche loro glielo deve pur dire, Renzi, che è da 4 anni che siamo messi così. Vabbè. Da 4 anni. Vabbè, adesso vuole risolvere. Sono in radio, mi chiamano da Mogadiscio, aspetta. Ma chi se ne frega? Ma chi è? No, ma questo è importante, aspetta. Da Mogadiscio, aspetta, Carlo, ma ti metto in diretta. Niente. Ti metto in diretta alla radio, aspetta. Ma chi è Carlo? Da è Carlo Biffani, uno dei massimi esperti di sicurezza, che mi chiama da Mogadiscio. Aspetta un attimo, ferma, non me ne frega niente di Mogadiscio. Oh, eccolo qua, buon anno. Sì, ciao. Come andiamo? Sì, ciao. Parenzo? Sì. C'è il tuo amico? Mi stavano chiamando da Mogadiscio. Ma non me ne frega niente di Mogadiscio, fai un altro lavoro, vattene. Ma da Mogadiscio, cioè è importante. Cioè, buon anno, lo posso cacciare o no questo qua? Gianluca? Senti. Lo posso cacciare o no? Ma chi? Parenzo. Mettilo nella raccolta differenziata, porta a porta. L'altro puoi andare a porta a porta invece che da Vespa nella raccolta differenziata proprio. Eccolo qua, il genio, il genio. Il tuo amico Gianluca, buon anno. Il tuo amico Gianluca. Mi ha beccato. Senti, togliere, adesso mi sono la mortadella. Adesso mi sono rotto le scatole. Adesso, togli quel telefono maledetto, per favore. Beh, l'ho tolto. No, la suoneria, ma non si può continuare così. Ma non so perché c'è la suoneria. E come per non lo sai? Lo sai, c'è la suoneria in diretta, dai, su. Aspetta un attimo, vai che adesso l'ho chiamata. Buon anno, dimmi qualcosa, non è possibile continuare così. Ma buon anno, che c'entra buon anno? No, ma perché hai rotto le scatole? Perché Giuseppe Cruciani, che è un ragazzo intelligente, sa che io sono superiore a Parenzo e quindi se venissi io lì farei sfracelli. Ma non è possibile una cosa del genere, dai. Mamma mia. Eppure è successo lo stesso, pensa, magari la zavola di Parenzo ce la fai. È una cosa impressionante, guarda. Vabbè, io voglio... 30 secondi, torniamo subito. Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro. Pubblicità. Che bacca, tu mi hai aperto un mondo, ora ho capito cos'è un fondo, so anche cos'è un investimento e farlo non è più un tormento, io non ti lascerò mai più, ed investire non smetto più. Nasce Risparmio Gestito Che Banca, investire non è mai stato così pop. Fino al 30 giugno 2014 paghi solo la commissione di gestione. Foglio informativo e documento informativo su chebanca.it. Che banca? Scegli il giallo. La zanzara. Sei ancora al telefono oppure No, era un caso interessante. Non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Sono affari tuoi. Hai rotto le scatole. No, sono notizie, non affari. Sono notizie. Non me ne frega niente. Notizie. Ma dai, cioè, tu sei veramente un dramma. E che cavolo, ma non è possibile, guarda. Detto da Menzolini. Ma non è possibile. Cioè, in diretta, squilla i telefoni. Intervieni, parli mentre ci sono gli intervalli. E che cavolo, basta, non ne posso più. David, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? La Pravda c'è in omaggio il telefilm di Rin Tin Tin. C'è in omaggio lo stregone Rasputin. Oh, caro onorevole Buonanno, il suo presidente della Camera, lei lo sente come suo innanzitutto? Il suo presidente? No, direi proprio di no. No, assolutamente. E quello degli altri, mettiamolo così. Il presidente della Camera degli altri. Il presidente della Camera oggi ha detto che... praticamente accogliamo i turisti con gli hotel a 5 stelle e c'è questa contraddizione, ci dovremmo un po' vergognare in pratica perché c'è questa enorme contraddizione su come accogliamo i turisti negli hotel a 5 stelle e invece come trattiamo i poveri immigrati clandestini. Ha saputo di questa dichiarazione dell'onorevole Boldrini, no? Sì. Ma devo dire che innanzitutto direi così, che dovrebbe spostare la residenza la Boldrini magari a Lampedusa e vivere nel centro di accoglienza che adesso è vuoto, semivuoto, eccetera. Così incomincia anche lei ad adattarsi a queste cose, oppure invece di fare il presidente della Camera dove c'ha quelli con i guanti bianchi, tutti quelli che fanno l'anticamera lì, e tutti serviti sistemati che portano il caffè, ti portano la bevanda, eccetera eccetera. Allora deve tirare via tutto e fare come i capi di tribù magari di qualche zona del mondo da dove arrivano anche queste persone e si mette lì e vive poi in un capanno. Se vuole essere coerente, tu dici certo. deve trasformare la Camera in una sorta di tribù africana, dici, no? Ma potrebbe anche lei solo, visto che l'affermazione la fa la Boldrini, potrebbe fare in modo di vivere in un capanno in riva al Tevere, magari in quei villaggi abusivi dei romeni piuttosto che di altri, così comincia a capire cosa significa. Perché invece se uno va a vedere come fa il presidente della Camera, c'ha l'autista, la servono, la sistemano, appena gli va giù un po' la calza qualcuno gliela tira su, qualcuno gli lucida le scarpe, allora non va bene. Cosa c'entra questo? Cosa c'entra? No, lui dice siccome... Ma lui dice una stupidaggine, lo sai bene. Perché dice una stupidaggine? Perché dice una stupidaggine evidente. Cosa c'entra la questione di come vengono trattati i clandestini da quello che è le vere privilegi evidentemente che ha ma qualsiasi presidente della Camera, ma non c'entra niente. Ma lui non deve fare la morale, scusa, partendo dal presupposto che ha detto una sciocchezza, perché non c'è nessun legame tra i turisti che vanno negli alberghi a 5 stelle, per fortuna ci vanno portando soldi all'Italia, ma questo è evidente, non c'entra assolutamente nulla. Dopodiché non è che tu puoi fare l'ironia sulle tribù africane, perché lascia stare, le tribù africane sono molto più avanti di quelli che si mettono le corna in testa e andavano a raccogliere l'acqua del dio Po. Cioè, tu stai dicendo che le tribù africane sono molto più avanti dei leghisti. Io sto dicendo che alcune tribù africane, ma le corna in testa adesso ce l'ha, ma ce le fa sua moglie, dai. Alcune tribù africane battuta che neanche delle osterie di Varallo Sesia, neanche a Varallo Sesia fanno questa battuta. Voi però magari ve le mettete anche in testa per rimarcare invece l'evento. Voi ve le mettete anche in testa, capito? Ma ve le mettete pure in testa, andate a raccogliere l'acqua del Monviso, portate giù questa ampolla fino a Venezia e nella sacra laguna che è più inquinata di qualsiasi zona dell'Africa subsahariana, dove c'è, lì buttate quest'acqua del Po dicendo che è purissima, ma mica ve la bevete l'acqua del Po, la buttate dentro la laguna, quindi non date lezioni alle tribù africane. Capito, non dovete dare lezioni alle tribù africane. Sto parlando che la Boldrini dovrebbe fare così, perché visto che lei si vergogna che in Italia vengono persone e stanno negli alberghi a 5 stelle, vabbè che quelli che sono arrivati per ultimi, ci sono stati prefetti e prefetture che le hanno mandati dove c'era anche la Beauty Farm, tanto per dire, cioè noi abbiamo i nostri pensionati, i nostri disoccupati che non c'erano neanche da campare, arrivano i clandestini e li mettiamo in alberghi a 3 stelle. Vabbè, non è che sono andati poi a fare, non è che sono andati a farsi fare i massaggi. E poi c'è la proposta nuova del governo, lo sapete che vogliono dare 20 euro a testa a ogni detenuto in Italia al giorno? Sì, vabbè, no, ma quello è per facilitare, diciamo, il reinserimento. Ho capito, allora uno che non ha niente, non c'è neanche i 20 euro in tasca, deve fare il delinquente, così è facilitato. No, scusa, io voglio capire una cosa però, la Boldrini secondo te perché ha detto sta frase qua? Perché vuol fare la comunista, ma in realtà è un'aristocratica. Dici, eh? Si vede lontano un chilometro. Perché nei suoi uffici viene trattata, servita, riverita. No, ma ragazzi, il presidente della Camera, ma voi dovete andare a vedere com'è. Dicelo tu. Non so, uno va nella sua anticamera, quando sono stato a colloquio con lei, perché ogni tanto faccio un po' briscolo, e sono tutti lì che hanno, ci sono tipo i maggiordomi, ci sono quelli che fanno l'anticamera, c'è tutto un suo gruppo di persone che lavora per lei, e ogni starnuto c'è qualcuno che gli va a soffiare il naso. Questa è la verità. La Lega non ha mai avuto la presidenza della Camera, la Lega? Come? Sì, con la Pivetti. La Lega, come? Appunto, vediamo se lo sa almeno. Ma no, Lega... ma... non ha mai avuto la presidenza della Camera. Guarda, la Lega, io adesso non sto dicendo, io sto dicendo come funziona, no? Dopodiché se uno fa la morale allora dovrebbe dire: io come presidente della Camera rinuncio all'autista, vado via e vado in giro con la mia macchinina, non voglio nessuno, e tutti quelli che dovrebbero lavorare per me, escluso la segretaria, come giusto che sia, qualcuno al seguito, invece a tutti gli addetti stampa, cioè che consumano solo un sacco di soldi e producono poco, se non le cazzate che poi magari vengono dette, allora è meglio che tutta quella gente sia più utile per qualche altra cosa. E invece ci ritroviamo che c'è quello che va, tra virgolette, al ristorante, mangia, dorme e fa di tutto, e poi dice all'altro: ehi, evito di andare al McDonald's perché costa troppo. Capito, Parenzo? La morale del nostro onorevole, del nostro buon anno. Senti Gianluca, ma io non ho capito una cosa, ma siccome la Lega è partita con questa cosa della legalizzazione della prostituzione, tu lì a Varallo se non hai fatto niente? Cioè non hai preso qualche iniziativa autonoma? No, vabbè, Varallo non è così grande, a Borgosese non è così grande. Ci saranno le prostitute, no? Ci saranno le prostitute pure là. Ma per la strada no, perché io con tutto il problema delle prostitute, a forza di rompergli le scatole, le ho mandate via. E come hai fatto a mandarle via? Ma non qua a Varallo, quando facevo sindaco a Serravalle. E come hai fatto a mandarle via, scusa, che facevi? Quando stavano lì sulla strada, a forza di rompergli le scatole, fargli i controlli, i documenti, eccetera, eccetera, che non avevano, e poi sono andati da qualche altra parte. Cioè le hai cacciate? In sostanza sì, perché comunque in Italia, anche qui c'è l'ipocrisia massima, che secondo... talune persone è meglio vederle per la strada con uno spettacolo indecoroso, è meglio non avere i controlli sanitari, cioè, è tu meglio mi stai che non dicendo... pagino le tasse, piuttosto di dire che ci sono anche in Italia le case chiuse. Tu mi stai dicendo che a Varallo Sesia non ci sono prostitute? Che sappia io sulla strada no, poi se c'è qualcuno che fa qualche altra cosa nella propria abitazione, io questo non lo so. Ma tu sei mai andato? No, assolutamente, sono nettamente contrario, però è il mestiere più adatto del mondo, e quindi... Ma come sei contrario? Che vuol dire sei contrario? Ad andarci. No, sono contrario ad andarci. Ma come sei contrario ad andarci? Non me ne frega, non mi interessa. No, a te il sesso non ti interessa, no? Che ti no, frega? Davvero, non mi interessa, non è una cosa che mi... Cioè ti farebbe schifo andare in una casa chiusa? Un po' schifo ti farebbe, dai, un po' schifo. No, ti... devo dire che ho una concezione del rapporto con l'altra persona che va sul sentimento più che sul denaro. Parenzo, capito? Ma ogni tanto dentro ognuno di noi c'è qualcosa di buono, cioè, anche tu se ti frughi dentro qualcosa trovi probabilmente, cioè ovvio, no? L'umanità è... Cioè ad esempio io sono contro, cioè mi ha inorridito vedere il filmato che eravamo dall'Inghilterra dove c'erano i gay che si sposavano eccetera eccetera. Perché? Perché ti hanno inorridito? Perché non veramente va contro... Cioè ti ha inorridito vedere le immagini del matrimonio gay che è stato benedetto da Cameron? Sì, cioè mi ha stupito in negativo. Cioè ti ha fatto schifo, ti hai inorridito. Un attimo solo, no, non mi è piaciuto, cioè non è... Poi facciano quello che credono, però se io avrò un giorno l'opportunità di decidere determinate cose... A Varallo è pieno di froci, ti voglio segnalare che nel tuo paese sarà sicuramente pieno di gay. Guarda, che ci siano, quello è vero. Credo che siano quasi tutti di sinistra anche. Addirittura. Vabbè, pubblicità. Grande novità che è spuntata fuori negli ultimi giorni, caro Parenzo. Il nostro amico Razzi ha presentato un disegno di legge. Già è una notizia questa. Sulla cosa. Prostituzione, sì. Sulla prostituzione. Ma anche sulla regolamentazione dell'uso del preservativo, mi pare di aver letto. Ma è questa la cosa cita, a parte che chiama le prostitute operatrici operatore di assistenza sessuale, OAS, che è già straordinario, no? Tutto sempre facile. C'è il pericolo dello scorrimento del traffico, disgradevoli visioni notturne, delle malattie. E nel disegno di legge, senti, articolo 3, comma 2. Nell'esercizio dell'attività di OAS è obbligatorio l'uso del profilattico per qualsiasi tipo di prestazione. L'eventuale danneggiamento del profilattico durante una prestazione deve essere denunciata da parte del soggetto esercente l'attività di OAS alle autorità sanitarie competenti entro il primo giorno feriale successivo all'evento, con indicazione delle generalità del cliente. Cioè, se ti si rompe il preservativo mentre trombi, questa è la sostanza dei fatti, no? Mentre sei lì, vabbè, nel rapporto sessuale tra cliente e prostituta, scriverà, dice, scrive un senatore, non me la prendete con noi, scrive un senatore della Repubblica. Scrive Razzi che l'uso del profilattico è obbligatorio. Ma se si rompe il profilattico, se si rompe, la cosa deve essere denunciata da parte dell'esercente, cioè della prostituta, alle autorità competenti. Ma non è sbagliato questo. Dai, su. Pronto? Non è sbagliato. Scusa Gianluca, ma la sapevi questa storia di Razzi che dice che l'uso del profilattico è obbligatorio, no? Se dovessero essere istituite le case chiuse. L'eventuale danneggiamento del profilattico deve essere denunciato, cioè se ti si rompe il profilattico, il preservativo lo devi denunciare, cioè la prostituta deve denunciare alle autorità competenti il cliente dando le generalità, eccetera. Ah, è spettacolare questa cosa qua. Ma sai cosa bisognerebbe fare? Cosa? Provare a fare in modo che Razzi incominci a infilarselo uno sulla testa, vedere se tiene. Perché, dici? No. No, perché è simpatico Razzi, è veramente una persona che mi fa troppo ridere. Beh, ecco, gli hai appena dato la testa di cazzo. Però, ma no, sei. Ma era una battuta. Vabbè, Razzi, guarda, io sono uno di quelli che l'ha sempre difeso, perché secondo me è veramente una... Sì, è una risorsa, sì, di questo no, paese. No, è uno... Intanto lui ha lavorato una vita, quello che mi ha raccontato, in Svizzera. Vabbè, fatto allora... un mazzo è uno che ha cercato di venire fuori da quello che era una vita difficile. E quindi è andato a lavorare in Svizzera facendo tanti sacrifici. Ma è diventato un personaggio come te, praticamente. Cioè, no, ma se voi, più, se tu ti candidi alle elezioni, però quanti voti prendi? Non fare le mie imitazioni, mi piacerebbe facesse la mia imitazione. Lo so, ma prima o poi... Ci metterebbe in ginocchio come Brunetta, per far Brunetta. Prima o poi ci arriviamo alla mia imitazione tua, non ti preoccupare. No. Allora, comunque, Razzi, guarda, è uno che io rispetto e mi è molto simpatico. Un attimo solo, che fra poco ti faccio sentire uno che abita dalle tue parti, un piemontese che abita lì, vicino nelle Langhe. Super Farinetti, tra Sharm el Sheikh e il sud si deve trasformare in una grande Sharm el Sheikh. Io penso che il sud sia in una condizione terrificante, è stato fatto troppo welfare nelle istituzioni. Per me il sud c'è una roba solo da fare, un unico grande Sharm el Sheikh. È presente quella roba in Egitto dove ci va tutto il mondo in vacanza? È uno dei posti più belli del mondo. Facciamo venire i turisti di tutto il mondo lì. Eliminiamo gli F-35. Bisogna rimanere neutrali. Farinetti. Lei lo confermerebbe sto appalto degli F-35? Fosse il Renzi, cosa farebbe? Lo taglierebbe subito? Se potessi non lo confermerei. Io sarei per risparmiare moltissimo sulla difesa. Io addirittura sarei per un'Italia neutrale. Rafforzerei la sicurezza interna e poi per il resto risparmierei un sacco di soldi. No? Poi perché quando mi dicono ma poi se ci attaccano, io rispondo tanto perdiamo lo stesso anche con la nostra difesa, quindi tanto vale. Tanto se ci attaccano perdiamo lo stesso. Farinetti, che ne pensa? Buon anno, è un bluff? Da chi? Farinetti? Ma no, io devo dire, sono andato nei suoi locali, mi sono trovato anche bene, cioè devo fare complimenti perché si è avuto un'idea interessante. Che poi paghi buon la gente anno un po' che fai poco. Complimenti a Farinetti. Che paghi poco? La gente. Vabbè, poco, paga quanto vuoi. No, sì, paga un po' poco, però io dico sempre meglio poco che non aver lavoro. Appunto dico, no? Cioè paga secondo le norme di legge, non è che viola la legge. No, però uno che dice made in Italy, e poi li paghi come uno, diciamo così, come all'ultimo chi? Livello degli ultimi. Io non ho capito livelli. Perché non vanno bene le immagini che sono arrivate dalla Gran Bretagna dei matrimoni gay, non ho capito bene questa cosa qua. Ma perché sinceramente la famiglia fa un uomo e una donna, la natura è quella, vedere certe cose mi veramente mi scombussola. Ti scombussola, eh? Però sì, assolutamente. Ti devi però io sono per la libertà, ma Mi auguro che l'Italia non prenda mai questa direzione. Beh, secondo me prima o poi ti dovrai arrendere, caro no, Gianluca. Ma perché? Ti dovrai arrendere, secondo me. Ti dovrai arrendere. Assolutamente no. Arrivano e basta. Ma tu pensa agli inglesi, come lo spiegheresti ad esempio agli inglesi la questione del Dio Po, no? Se gli inglesi vengono qua, continua sempre a dire sempre la stessa cosa, lo spiegheresti tu agli inglesi? È più strano spiegare agli inglesi questo, la Padania libera, l'esistenza della Buckingham Palace. Se ognuno c'ha le sue, no? No, beh, guarda, Buckingham Palace c'è da un po' più di tempo della Padania libera. Vabbè, certo, ci mancherebbe, viene la regina adesso qui in Italia. E va bene, però loro hanno questo concetto della monarchia così. Vabbè, ma ho capito, ma la sostanza che vuole dire Parenzo è che ma tanto le hanno abbandonate queste cose, Davide, non è più la Lega di un tempo, adesso c'è l'euro, c'è la legalizzazione euro. C'è la legalizzazione della prostituzione, non c'è mica più la Padania. La Fornero, ecco, io ho una a cui veramente direi bisogna metterla dentro una gabbia, la Fornero. C'è dentro una gabbia, che vuol dire? Scusa, bisogna. Ma dentro una gabbia nel senso che ha fatto arrestare, bisogna arrestarla. No, adesso no, arrestare no, perché ci mancherebbe. Beh, dentro una gabbia, hai detto. Dentro una gabbia nel senso che non deve fare più danni, ma ha fatto una riforma veramente che fa schifo, che è disumana. Ma all'epoca non è che la contestavate tanto. No, noi l'abbiamo contestata, la Fornero ha creato 400.000 persone che sono degli zombie. Ma dai, su. Ma scusa, uno che e deve andare in pensione, gli dicono che può andare in pensione, lascia il lavoro, poi non c'è più il lavoro nella pensione, gli dicono che in pensione ce l'ha tra 3, 4, 5, 6 anni, ma che cos'è? Vabbè, ma ho capito, quelle e sono poi, cose. E poi abbiamo un governo, e questo lo dico, che voleva prendere i soldi destinati in parte agli esodati per darla a chi? Vabbè. Agli extracomunitari. Ma no! Ma quali extracomunitari? Per l'amor di Dio, ma no! Poi vanno al governo, la settimana scorsa sono andati al governo, adesso vi dico questo dell'alluvione della Sardegna. Che è successo? Che guida vendetta. Cioè, che è successo? Hanno portato un sottosegretario, si chiama Zanetti. Sì, Zanetti, scelta cinica, addirittura, certo. Che fa? 3.200.000 euro, che sono una bazzecola per lo Stato, per accendere un mutuo da 90 milioni di euro non c'era la copertura finanziaria per 3.200.000 euro, e il PD che era... Ma di che stai parlando? Lì, di cosa stai parlando? Dell'alluvione della Sardegna, che prima ha fatto venire le elezioni al professor Mario Monti e poi adesso sono finite le elezioni in Sardegna che hanno vinto e adesso non c'erano neanche 3.200.000 euro per accendere un mutuo da 90 milioni di euro. Ma questi sono tardi. Ma adesso li attiveranno, non ti preoccupare. Ah, certo, intanto i sardi sono lì a piedi, oppure parlano tanto al terremoto, c'è stato il terremoto in Emilia, nella bassa Lombardia, no? E poi dopo anche l'alluvione. Lo sapete che un paio d'anni fa il governo Monti ha destinato ancora soldi al terremoto del Messina e Reggio Calabria del 1908? Ma quello tutti i governi, un secolo fa. Tutti i governi fanno. Tu, è che, l'Italia questa e qua, che vorresti fare? Siamo ai matrimoni gay. Ma i matrimoni ma gay? Ma che c'è? Due Sardegna, cose diverse. I matrimoni gay. Facciamo le cose serie. Ma arrenditi anche, ma nel, anche nel tuo palazzo alla fine. Non mi arrenderò mai. Sì, sui froci ti devi arrendere prima o poi. Ci sì, buonanotte. Ci saranno i matrimoni. A te ti hanno mai cortato. Anche avrò forti, sono contro i matrimoni gay e soprattutto sono contro le adozioni di omosessuali verso un bambino o una bambina. Scusami. No. Scusami. Aiutiamo quelli che vogliono adottare i bambini, uomo e donna. Non è possibile in Italia, questa è un'altra vergogna. Cioè, meglio chi? Devi aspettare 3, 4, 5 anni per adottare un bambino o una bambina. Scusami. Ti fanno gli screening su tutto e più di tutto e poi vogliono dare gli omosessuali. Ma diamo i numeri. Ma scusa un attimo, ma meglio lasciarli soli che dare gli omosessuali? No, meglio dare alle persone. Vabbè, normali, ma meglio lasciarli soli. Fare una pratica ci mettono anni, è una vergogna. Ma è meglio lasciarli soli è o no? È una vergogna. Piuttosto che a famiglie omosessuali. No, è meglio cercare di dare. Ah sì, perché cresce un bambino. Chi è il tuo papà? Sono io. E la tua mamma? Sono io. Ma siete uguali. E allora? E cosa capisci? E allora? Come viene su? E allora? Ma come viene su un bambino o una bambina? Ma perché? Che scene allora? Già. Allora tu fatti adottare da un gorilla, non lo so. Ma non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa? Ma scusa, ma due uomini o due donne che... E stai paragonando agli animali te? No, sto dicendo, ho estremizzato una cosa per far estremizzato. Capire. Non è una cosa normale, no? Ma no, in molti paesi è normale, in alcuni paesi è normale, non succede nulla, no, non succede. In Italia c'è già, ma per già, me non è normale. Ma che questo succede? Ma che succede? Vedono brutte scene dentro casa, che fanno? Qual è il problema? Ma che ne so, perché adesso io non voglio dire quello, no, perché bisogna essere proprio malati mentali su quello. Cioè però cosa? Se sono due uomini o due donne che vogliono adottare un bambino o una bambina, per me è fuori dal mondo, non esiste, cioè uno Stato che autorizza quello non è uno Stato moderno, è uno Stato pervertito. Uno Stato pervertito, perché non ho capito, due uomini che stanno insieme sono due pervertiti? No, per far crescere un bambino, io sto parlando di un bambino che non sa le cose e che non può giudicare perché ovviamente è ancora un bambino. Vabbè, meglio dargli a una famiglia, tu dici di criminali, però eterosessuali, anche se sono... meglio. No, io ti sto dicendo criminali. In Italia oggi vige che per adottare un bambino o una bambina passano anni prima di darti l'autorizzazione. Ma anche è un altro discorso, dai. Ci sono tante famiglie per bene che lo vorrebbero fare, quindi ci sono tanti bambini e bambine che aspettano di essere adottati da persone per bene, non si riesce a fare. Però se si parla di adozione tra omosessuali, allora sembra che ci sia la corsia preferenziale. Ma no? Quando mai? Ma quale corsia preferenziale? Ma non esiste. Ma non c'è. Al contrario, fino a quando avrò forza e vita, io sono contrario a queste cose. Ma non ti hanno mai corteggiato gli omosessuali? Un omosessuale? No, proprio direttamente no, per fortuna. Perché per fortuna, scusa? Mi fa impressione, scusa, mi dà fastidio. Ti dà fastidio se uno ti corteggiasse? Ma ci mancherebbe. Se uno ti corteggiasse, ti avvicina in un bar e ti chiede, che ne so, vuoi bevi una cosa con me, eccetera, ti darebbe fastidio? No, se lo fai in maniera proprio spudorata gli direi sbagliato indirizzo. Un corteggiamento normale, corteggiamenti si possono. Questo dico e ripeto che ci sono tanti omosessuali che io stimo. Vabbè, questo ci manca. Questo che vuol dire? Però se uno lo fa in maniera troppo palese, a me mi dà fastidio, questa è la mia natura, cosa devo dire? Cioè, luxuria ti dà fastidio, diciamo la verità. Sì. Ti dà fastidio. Sì. Che c'ha che ti dà fastidio? Speravo che la trattenessero in Russia, invece l'hanno riportato in Italia. Se stava in Russia, anche perché credo che Putin sia oggi l'uomo più forte del mondo, più ancora di Obama. Addirittura. Ti piace Putin? Ti piace da morire Putin? Ma io ho detto che in Italia per cambiare un po' di cose ci vorrebbe una specie di Putin italiano. Un Putin italiano, dunque doveva essere trattenuto in Russia, parlatemi in luxuria. Certo, perché è andata là solo per rompere le scatole e fare in modo di essere arrestata per fare notizia, quindi doveva stare lì un po' in carcere così. Invece appena l'hanno toccata ha starnazzato da tutte le parti, aiuto, venitemi a prendere. Ma se c'hai i coglioni stai lì e fai quello che devi fare. Parenzo? Starnazzato, cioè i peggiori luoghi comuni dei bassi fondi, i peggiori, ha starnazzato. Sei proprio di una inopportunità. Aiuto! Se vai lì con una bandiera che fai una cosa che sai che lì non la puoi fare, allora te la sei cercata. Allora noi cosa facciamo? Il Ministero degli Esteri nostro subito attiva il tavolo operativo. Ma per chi? Per luxuria che va là solo perché vuol farsi arrestare, però appena la toccano ha paura. Stai lì due o tre mesi. Vi ricordate i tifosi laziali in Polonia? Hanno fatto le stesse cose che fanno in Italia, solo che in Italia sono concesse. Le hanno fatte in Polonia e le hanno tenuti lì. Comunque mi dicono che in realtà quelli che sono stati con lei, che poi le sere prima frequentavano i bar lì a Sochi tranquillamente, luxuria. Sì, ma senza manifestazioni evidenti di appartenenza a una si sono un po' divertiti nei bar di Sochi, nei bar russi. Vabbè, comunque. Si fossero messi a sventolare la bandiera, simbolo del desiderio. Vabbè, Gianluca, ciao, ci sentiamo presto, dai. Ciao ragazzi. Ciao. Giovanni da Monza, buonasera. Buonasera. Dimmi. Sono il coordinatore del nord-ovest dell'esercito di Parenzo. Oddio, del nord-ovest. Ma quanti siete? Siamo 12.000 club in tutta Italia. Ma che 12.000 club, più dei club di sito quasi. Siamo più dei club di sito. Io ho due bambini, uno si chiama Pier Parenzo. Poi? E l'altro si chiama Davidina. Davidina, allora cosa ci vuoi dire, coordinatore del club? No, perché tutti se lo prendono col povero David, che è un po', il messaggero di pace della Zanzara, il custode. Ma quale messaggero di pace? Cioè, un criminale, basta. È un grandissimo, il numero uno. C'è la pelle dura. Io ascolto la Zanzara solo per Giuseppe Cruciani e per David Parenzo. Vabbè, questo te credo, siamo noi due. Esatto, ma se fosse qualcun altro sentirei lo stesso. No, come se ci fosse qualcun altro a sentire se lo stesso. È, allora, scusa. No, no, però veramente, se la prendono troppo con Davide. Io la terza volta che chiamo se la prendono tutti col povero Davide Parenzo. È il numero uno, è veramente il numero uno. Perché dice come la pensa e perché è il miglior amico di Buonanno, probabilmente. Alberto, provincia di Bergamo. Il miglior amico no, bravo. Alberto? Sei pronto? Vai, vai. Buonasera Cruciani, senta, io vorrei dissociarmi dal coro di tutti quelli di come siete bravi, come siete intelligenti, interessanti. Ma veramente non c'è nessun coro qua, non c'è nessun coro. Ognuno che telefona complimenti per la trasmissione. Si sbaglia amico mio, si sbaglia, guardi, si sbaglia. Vabbè. Si sbaglia. Avrò sentito male. No, io l'ho sentito malissimo, non male, malissimo ho sentito, malissimo. Va bene, mi laverò meglio le orecchie. No, ecco, no, ma se la lavi bene però, se la lavi bene. Ma soprattutto è veramente il suo comportamento che sì. non mi piace, ma cioè, posso dire una cosa francamente, che sì. ogni volta che sento la sera la Zanzara, perché poi alla fine è un po' cose, sono qua ancora al lavoro, per cui tante volte mi fa anche compagnia, ma è possibile che lei debba spazio sempre a, come dire, alle sì. persone peggiore forse che esprime il nostro paese. E veramente mi sento rivoltare, cioè io vado all'estero, se le persone dovrebbero dare ascolto e risonanza a tutte le persone che lei cita, poi soprattutto mi dà fastidio che dia sempre spazio a quelli che aggrediscono il povero Parenzo. Io onestamente dico, Mauro, come fa Parenzo a sopportare lei? È veramente una cosa, vabbè, dopo questa filippica allucinante. Dopo questa filippica, perché no, così pelle dura, disonesto no. intellettualmente par Cruciani, cioè soprattutto lei lo spazio lo dà a qualsiasi cialtrone che aggredisca la sinistra, questo no, io lo spazio a chiunque io vede, la differenza è questa, cioè a me non me ne frega niente che siano di sinistra, di destra, eccetera, purché abbiano quel quid in più, purché abbiano dentro quel qualcosa che permette a queste persone di stare qui a trionfare alla radio, ha capito? Cioè a far sentire la propria voce, a me non me ne frega niente, possono dire anche le peggiori corbellerie, capito? Ma scusi, da spazio adesso le faccio a sentire Razzi, adesso bene. Ma Razzi là ci perde il numero uno, le faccio sentire fra poco, dopo il traffico, un personaggio straordinario che abbiamo scovato in Sicilia. In Sicilia, ad Alcamo, è il vice sindaco di Alcamo. Restate qui, è un personaggio eccezionale. La Zanzara è quell'odioso insetto. Sono tempi duri, non tanto per noi, che ne frega niente, nulla, zero. Mi ha beccato, mi ha beccato, gratta gratta, ma peggio è. Beh, voglio sentire Feltri intervistato questa mattina da Agorà, caro Parenzo, perché ha ripetuto paro le cose dette qui alla Zanzara la settimana scorsa, che hanno fatto sobbalzare più di una sedia in quel di Arcore, o le poltrone, non so se ci sono sedie, poltrone. Sì, c'è un po' di tutto. Comunque, sentite, Come si immagina le sere di Berlusconi adesso? Terribili, malinconiche, secondo me depresso. Per uno abituato con condominio di oggettine, trovarsi tutte le sere con la minestrina e la Pascale penso che non sia bellissimo. Trovarsi tutte le sere con la minestrina e con la Pascale non è bellissima, erano meglio le olgettine. Come dare torto a Vittorione? Come dare torto? Sono tempi duri, Durissimi per me che devo sopportare questo, che è un inetto totale. Andiamo a Crozza su Razzi, senti la prostituzione. Guardate che disegno di legge ha presentato: disciplina dell'esercizio professionale della prostituzione. Cioè praticamente vuole riaprire le case chiuse. Vuole introdurre la figura dell'OAS, operatore di assistenza sessuale per il traffico. È una figura nuova nel nostro ordinamento, non so se come nome prenderà piede, se è un gran figlio di operatrice di assistenza sessuale. Non funziona. Silvio, te lo dico da OAS, fatti un'assistenza sessuale tutta tua. Ora segui fra le mie dita. Dario da Bologna, Dario. Ciao Cruciani. Dimmi, ciao Parenzo. Dimmi. Ciao. No, volevo dirvi una cosa, volevo chiedere a voi che siete più esperti di me. L'ispezione, cioè siccome l'amplesso generalmente avviene in un luogo ameno, sì. In un luogo buio, in un luogo riservato, Volevo capire, questa proposta dell'ispezione del preservativo, ma come si fa a ispezionare al buio? No, ma chi ha detto che devi ispezionare al buio? Subito dopo. Cioè, scusa, Dario, la proposta di legge di Razzi è questa: quando si rompe il preservativo, se si rompe il preservativo, ma uno se ne accorge dopo. Vabbè, certo che se ne accorge dopo. Uno dopo se ne accorge, quando se ne accorge, in teoria. Tempo anche un giorno fa la prostituta, quella che Razzi chiama. Qui si può leggere tranquillamente. Poi nei prossimi giorni glielo chiederemo, gli chiederemo i dettagli di questa cosa, come l'ha pensata. Come deve dettagliare, secondo me, come l'eventuale danneggiamento del profilattico durante una prestazione deve essere denunciata da parte del soggetto esercente l'attività di OAS, cioè la prostituta, alle autorità sanitarie competenti entro il primo giorno feriale successivo all'evento. Attenzione, entro il primo giorno feriale, con indicazione della generalità del cliente. Adesso noi pigliamo per il culo, però dopo tanti anni c'è uno che ha presentato un disegno di legge. Non è sbagliata la cosa, non è stupida. Beh, oddio, questa cosa qui è una puttanata, dai. No, ma roba è la tutela della salute. Vabbè, ho capito, la tutela del preservativo, siamo per il preservativo, non è colpa di nessuno, cioè punto e basta. Che succede? Una volta che viene dettagliata, che succede? Dai, su. No, però viene segnalato, evidentemente aumentano i controlli, anche la persona. Senti, senti sto personaggio, senti sto personaggio, senti, senti. Non mi sembra stupido. Il personaggio si chiama Salvatore Cusumano, vice sindaco di Alcamo. Vice sindaco di Alcamo, provincia di Trapani. Allora, bisogna bandire la parola malattia. Capito? Gli stanno chiedendo su un ospedale che non viene i ritardi sulla costruzione di un ospedale, roba normale, roba di ordinaria amministrazione in Sicilia, roba di ordinaria vergogna in Sicilia. E questo signore che si chiama Salvatore Cusumano, vice sindaco di Alcamo, dice che bisogna bandire la parola malattia, bisogna chiamare benattia e non bisogna avere ospedali, cioè il mondo ideale, il suo mondo ideale è quello in cui non esistono gli ospedali. Senti. Io mi auguro di trasformare la parola malattia, pensi che è brutta questa parola, malattia, cioè sembra uno che dice malattia, in benattia. Quindi la politica è che noi dobbiamo sentirci sani. In Cina, sa cosa è importante per un medico? Che il suo ambulatorio è vuoto. Quindi la malattia, anche questa, per il 70% è una condizione mentale. Quindi gli ospedali, per me, dovrebbero scomparire. Però i presidi per tutelare le malattie devono esserci. Allora, la malattia è una condizione mentale. Bisogna chiamarla benattia e non malattia. Ma senti quest'altra cosa, se siamo felici non ci ammaliamo. Io è pieno di persone felici che si ammalano, io conosco. Comunque, vabbè. Partiamo sempre dai principi più forti, cioè noi non dobbiamo fare delle cose per riempirle di malati, noi dobbiamo diminuire i malati. Certo, allora, se chiaro. Noi facciamo la città più bella, le persone stanno meglio. Se noi facciamo in modo che la nostra spiaggia sia usufruibile, le persone vanno al mare e si curano da sole, col sole. Quindi noi dobbiamo rafforzare il benessere dell'uomo. Noi dobbiamo fare sì che noi stiamo bene in questa città, che noi siamo felici. È ormai appurato che sorridere, essere felici, guarisce, fa scomparire le malattie. Quindi il mio principio è quello di iniziare a bonificare. È come se la nostra città diventa un grande ospedale. Praticamente col sole, capito David? È una teoria un po' discutibile detta così, dice. Però è vero che se uno vive in un ambiente più sano può stare meglio, dopodiché non è che uno non si ammala più, questo bisognerebbe chiamarlo questo qua, ma il tutto perché non ha finito un ospedale, però, perché in quella zona lì devono ultimare di costruire un ospedale. Sì, ma questo chi se ne frega, c'è dell'ospedale lì. Ormai è tutto degradato. Davide da Bari. Buonasera a tutti, buonasera Cruciani, buonasera a Scuola Parenzo. Ciao. Io la stavo chiamando perché lei l'altro giorno un po', diciamo, carteggiato i militari, no? Li ha evidenziati come gente che non ci stanno, praticamente non se ne accorge nessuno. E io volevo semplicemente darle la mia testimonianza, perché ci sono tante situazioni in cui i militari devono intervenire, siamo silenziosi, lavoriamo, anche sottopagati, in maniera molto disagiata, non abbiamo nessun tipo di tutela per quanto riguarda la parte lavoro, siamo in silenzio, facciamo quello che dobbiamo fare. Nessuno. Ma Davide, io non ho capito, lei che fa il militare? Certo. Capito, ma io non ho mai parlato male dei militari. Sì, l'altro giorno c'era un ospite, parlavate degli F-35, ha detto tanto i militari italiani. Ma lui l'ha detto, io è una domanda che gli ho fatto. No, a... no. Guardi, ci sono delle sacche di clientelismo all'interno dell'esercito italiano che fanno spavento, delle sacche di sprechi all'interno dell'esercito italiano. Ma, poi ci sono quelli di elite, che è un altro discorso, dai, su. Certo, però voglio dire... I tre quarti dell'esercito italiano non servono un cazzo, dai, diciamo la verità, i tre quarti dell'esercito non servono un cazzo. Ma anche i tre quarti dei giornalisti non servono un cazzo, sono tutti fortunati come lei, che ha la fortuna di essere pagata. Può darsi, il problema è che i giornalisti vengono... E poi farli pagare profumatamente, perché ovviamente... Il problema è che la differenza è che i giornalisti vengono pagati dai privati la maggior parte delle volte, a parte la RAI, e mentre l'esercito lo paghiamo noi, ha capito? E quindi... Quando succede qualcosa, qualche calamità naturale, ci va lei. C'è la protezione civile, ci sono altre cose. Sì, infatti abbiamo visto che... Guardi, per anni l'esercito... bisogna abolire l'esercito, e nessuno... Per tanti anni... Si è visto in Abruzzo come avete fatto, cosa ha combinato la protezione civile. Guardi, per tanti anni l'esercito... Si è visto cosa succede per le strade quando... non vanno... Gli eserciti adesso stanno facendo anche strade sicure, quindi vanno a fare... Guardi, per anni l'esercito è stato un ammortizzatore sociale. È stato praticamente il posto dove venivano assunte persone per clientele e cose di questo tipo. Poi c'erano certo l'esercito dell'elite, l'esercito degli specializzati, l'esercito delle missioni, eccetera eccetera. Per anni purtroppo c'è stato anche un'altra parte di esercito, quella che insomma che pesava sullo Stato e in parte pesa ancora sullo Stato. Un attimo solo. Rosa, rosa, rosa, se va bene rosa. Fate qualcosa di buono, che siete due prostitute. Comunque ci divertite, vi va bene lo stesso. Guardate che vengo lì di pigliacarti in culo. Il mitico Agatino Catania, buonasera. Sì, buonasera. Che vale, sono Pugiani? Sì. Sì, buonasera. Niente, volevo dire io... Parlate sempre di questi gay. Sì. A qualche vero non vi piacciono a voi le persone... Se sembrano quelli che sono, mi piacciono quelli che sembrano quelli che non sono. Cioè, non ho capito, mi spieghi meglio questa cosa. Cioè, un gay è, ovviamente c'ha l'aspetto di un uomo, no? Come invece non lo sono. Cioè, allora, no, mi spieghi bene. I gay sono? Cioè, un gay. Sì, Agatino, sì, Agatino, sì. All'aspetto di un uomo, giusto? Ma com'è l'aspetto? All'aspetto, è un uomo, un gay, diciamo, maschio, lei dice, no? Un gay maschio ha l'aspetto di un uomo, invece non è un uomo. Quello femmine come si chiama, quello che fa la femmina? Lesbica, no? Come si chiama? Omosessuale, cos'è? Ma no... Elton John, cos'è? Elton John. Sì, Elton John, sì. È un cantante omosessuale. È anche lui, no? Sì, allora... Allora, in guardia all'adozione dei bambini, per me possono fare quello che vogliono. Sì. Se vogliono sposare, che se ne vanno in Inghilterra. Sì. Noi siamo italiani e penso che vogliamo restare italiani. E allora? Però, in guardia all'adozione dei bambini, è una cosa proprio vergognosa. E voi ne parlate sempre, la Zazzara. Noi ne parliamo sempre, sì, Agatino. Ne parliamo sempre, sì, Agatino. Ma lei ritiene una cosa giusta a quel che... Ma scusi, ma lei, ma che pensa? Se, per esempio, dov'è lei? Dov'è Catania, lei? No, io mi trovo a Orte, sono un camionista, sono un ristorante fermo. Ah, ma di dov'è? Di Catania? Di dov'è? Di Paternò, provincia. Di Paternò, ma ci sono gay a Paternò? Ma penso che ci sono in tutto il mondo. Appunto. Ma lei ne incontra? Lei ne incontra per strada mentre fa il suo mestiere o no? Ma io ne vedo tanti. Ne vede tanti, ma è vera questa storia che si mettono nelle piazzole, vi aspettano? Ma io lo racconto un metodo, l'ultimo che mi è capitato. Da promettere che io ho 64 anni, no? Sì. Non sono più un ragazzo. Vabbè, che c'entra questo? No, per dire, mentre mangiavo a Torino all'Interporto, avevo finito di scaricare, sì? All'Interporto di Torino. Sì, come no, certo. Mezzanotte più o meno, così c'è un piazzale là, ero lì che mangiavo qualcosa, con le luci accese dentro la cabina, ovviamente. Sì. Arriva quello e mi fa, ti vuole divertire? Porca puttana. Cioè, capisco che sei in gay. E allora, no, ma dimmi, Agatino, che è successo dopo? Ma non è successo niente, ho detto, ma con te mi devo divertire, ho detto, lasciami mangiare in pace, va. E poi se n'è andato? Sì che se n'è andato. Se n'è andato, ma com'è che ha fatto, com'era la frase? No. Se mi volevo divertire. Ti vuoi divertire, così ha detto, ti vuoi divertire? Esatto. E vabbè, ma non c'è niente di strano, no? Cioè, non è... No, ma... Ma di continuo succede in queste piazzole, di continuo? Ma non lo so perché mi ci fermo raramente nelle piazzole, di solito mi fermo nell'area di servizio, nei ristoranti, però ne succedono, quello che sento che vi raccontano là, altri camionisti, altra gente che va in giro con le macchine, è la verità che vi dicono, eh. È la verità, eh? È la verità. Ma se, scusa, se lei vede due che si baciano, le fa proprio schifo, questa cosa? Due uomini. Se sono due uomini, a dire la verità, sì. Perché io che mi sento di essere uomo, sì. solo il pensiero mi viene il vomito. Non potrei essere mai capace di baciarmi con un altro uomo. Ma un bacio in bocca, un bacio sulle labbra. Ma se non vuole. Ma neanche per sogno. Neanche persone. E se qualcuno ci prova? No, ci prova, capita male se ci prova. Capita male, Certo. Che fa? Piglia gli schiaffoni, che fa? Ma sicuramente, scusa. Signor Agatino, il signor Agatino da Catania. Dove... Ma parlate di froci! Vergognatevi tutti! Ma chi è? Vergognatevi! Ma chi è questo? Chi è? Chi è? Vabbè, Agatino, io non lo capisco. Dove si trova lei esattamente? A Orte, si è fermato ad Orte. Vabbè, lei è contro il matrimonio, è contro le adozioni, non sopporta i gay, ma che dovrebbero stare a casa loro, che dovrebbero fare? No, ma possono stare insieme quanto vogliono, loro che non fanno tutto questo, ma io dico, anche loro hanno un cervello, hanno un papà o una mamma, no? Allora? Cioè, non è che si devono esprimere così vergognosi che pretendono il matrimonio, pretendono di adottare bambini. Cioè, questo è un egoismo, perché sono un gay, come volete chiamare, i bambini, scusi, mi adotto un bambino di 2 anni, di 15 mesi, di 3 anni, che non capisce un cavolo, e poi quel bambino nasce con me e si ritrova come mamma un uomo. E vabbè, è importante l'affetto. Ci sono già dei importante bambini adottati da coppie gay, già ci sono. Già. Importante l'affetto. Vabbè, comunque, Agatino, ma secondo lei la maggior parte dei camionisti sono d'accordo con lei su questa cosa? Ma parecchie, sì. Le persone più serie... Sì, vabbè. Agati, l'abbraccio. Arrivederci. C'è l'invasione dei froci. La Sicilia è invasa dai froci. Guarda, nel giorno della riforma del Senato presentata da Renzi, a noi che ce frega, parliamo di queste cose qua, che ce ne frega a noi di questi discorsi noiosi, la riforma del Senato, l'inizio, la presentazione del disegno di legge, il CNEL, tutto quello che vuoi, non ce ne frega niente. Tant'è che ti ho invitato un ex parlamentare, caro Parenzo, un ex senatore magari? No, un ex, una che è stata alla Camera, 4 anni, 5 anni, quasi praticamente un'intera legislatura. Beh, insomma, una persona che è tornata anche a recitare sul palco, addirittura a fare degli spettacoli live, spettacoli non proprio morigerati, però nemmeno proprio così, nemmeno, cioè non credo che si sia spogliata completamente. Ilona Staller, buonasera. Salve, ciao cara, ciao. Come stai? Ma è vero che sei tornata a fare gli spettacoli, Ilona? Ascolta, visto, considerato che vorrei che tutti si tirassero un pochettino più su di morale, allora, tutti noi, diciamo, non solo loro, il pubblico, certo. Allora sono tornato a fare gli spettacoli, sarebbe Cicciolina Rock Tour. Cicciolina Rock Tour, in che cosa consiste questa pièce? Love Tour. E qual è la trama? Qual è il plot? Ma ti spoglio o no? Dimmi la verità. Sì, faccio erotica in topless, bello, canto le mie canzoni, Muscolo Rosso, insomma, conoscete le mie canzoni, sì, no? Come no? Sono molto famose. Scusate, ma fai vedere tutto o no? Oppure ti spogli in maniera un po' soft? Ho appena detto che faccio l'erotica. Cioè, ti spogli proprio tutta? L'erotica che cosa vuol dire? No, non lo so, ma ci sono tanti modi, ma non so, anche oggetti utilizzi, no? Adesso va sempre così, no, nel dettaglio. Oggetti no, ma vabbè, che ne so, a 63 anni non si possono usare, quanti anni hai? 62, ma 60... perché dovete sempre mettere un po' più avanti? Vabbè, 62, ancora stai alla grande, stai a 62, dai, pigli pure la pensione. Ma hai visto il mio nuovo blog, il www.blogdiciccolina.it? No, com'è la storia? www.blogdiciccolina.it. Oh, ottimo, sarà un punto di riferimento fondamentale, blogdiciccolina.it. Scrivi su questo blog. Darò un'occhiata, cara Cicciolina, ti voglio però fare una piccola domanda. Tra l'altro, comunque, i miei spettacoli stanno andando alla grande. Beh, alla grande, c'è un adesso sacco di pubblico, sono molto carini. Sì. C'è qualcuno che mi dice di dare un po' di, insomma, ragazzi, cioè, di fare... al volo, non è possibile, il compl- completamente nuda, perché è erotica, sexy, con le topless, è molto però, carino. Però ti chiedono di spogliarti tutta, diciamo. Ma qualcuno ti offre, sì, qualcuno ti offre del denaro? No, per carità. In che senso? No, per varie, no, che ne so, prestazioni, cose di questo tipo, no. Ascolta, io non faccio, come si chiamano, call girl, quelli che vanno a... Call girl. Vabbè, ma le prostitute, no, mica non ho mai fatto, che vado a fare adesso. No, certo. Senti una cosa, ma... così si apre. Che cosa? Che c'è? Non sono andato per verificare. Senti, comunque, tanto per la vostra conoscenza, io ho fatto per 5 anni il Parlamento, sì, dall'86 adesso te becchi 3.100 euro di pensione, diciamolo, lordi, assolutamente. E comunque parliamone di quelli che prendono invece i baby pensioni, o quelli che... ma perché non... manager che prendono i 3-4 milioni all'anno, ragazzi, questo è allucinante, lo trovo. Però scusami, Renzi, io adesso direi un appello verso Renzi. Vai, Renzi. Tu hai promesso di fare tante cose, cambiare tutto, sì, diciamo. Sì. Allora, come io ti farei un consiglio, ti darei un consiglio. Vai. Innanzitutto io avevo già detto all'epoca che tirerei via completamente il Senato, non serve. L'hai detto tu prima di Renzi, diciamo. Ho detto molto prima di Renzi. Molto, sì, prima di Renzi. Però questo qua è vero, potrebbe essere vero. Non ti assicuro che è vero, è verissimo. Scusa, sì, però perché non fai una proposta? Ho costituito la mia DNA, sì, partito DNA, Democrazia Natura Amore. Democrazia Natura Amore, certo. Io ho anche detto che non serve. Non bofonchiare, Parenzo, o dici qualcosa, non dici. Che partito è questo? Ma ho capito, non bofonchiare, fallo capire se dici una cosa. Ma la stai dicendo di sordo, ho detto che non capisco. No, l'hai sentito solo tu. Che partito è questo? Partito? Ma scusate, in Italia c'è gente che muore di fame, in Italia c'è però, gente scusami, che muore di fame. Ilona, io ti chiedo una cosa, perché non dici a Renzi tagliami la pensione, dalla ai poveri, perché tu sei povera, dici? Farlo, scusa. Perché la mia pensione sarebbe solamente una tra tanti quelli che prendono i 5-8 milioni. Vabbè, tu prendi 3.000 euro al mese. Goccio nell'acqua del mare. Però ti serve per campare, diciamo la verità, ti serve per campare. Tra l'altro, la mia, io sono stata votata con 20.000 voti, certo, quindi non sono stata messa dentro, nominata da qualche partito, messa come ministra, eccetera. Io praticamente mi hanno votato il popolo italiano. Senti, ma da quanto tempo è che non fai? Vogliamo ricordare a quelli che ci ascoltano da quanto tempo è che non fai un film tu? Dall'88. Oddio, io ho finito nell'88. Ti rendi conto? No, 88. Sì. Ma qual è il ricordo più terribile di quando facevi film? Ci sarà un ricordo terribile di quando facevi film? Ma io sinceramente non è che era... Ti dirò una cosa, è molto più pulita la pornografia che la politica. Questo addirittura, non dai, più. Su, sì, addirittura. Sì. Scusa, questo lo devo dire. C'è troppa tozzeria, c'è troppa corruzione e c'è anche mafia, dai, diciamocela. Senti, ma Rocco Siffredi com'era come partner? Beh, io ho avuto diversi partner. Rocco, in che posizione è? C'era questo grande attore americano che è morto di AIDS, che vi ricordate, il grande John Holmes? Beh, tu sei stata una di quelle che è stata con John Holmes, vabbè, siamo al top qui, famoso, eh. Una vita per no. John Holmes era un grande delinquente, ma un grande artista, era nel suo modo. No, ma secondo te il migliore Rocco è il migliore? Ascolta, qui non c'è un fatto del migliore, no, peggiore. Ma in generale. Io ho fatto sesso con giapponesi, cinesi, francesi, americani, tedeschi, olandesi, di tutto, per lavoro, intendiamoci, come porno diva. Ma i giapponesi erano terribili, come si fa ad andare con i giapponesi? Sono carini, gente molto carina. Io i giapponesi, dai, su, un giapponese. Le hanno le tette piccolissime. I film porno con i giapponesi, dai. Ma perché, scusa, qual è il problema? Ma vabbè, dai. Lei saprai, i cinesi, anche i cinesi, dai, sì, i cinesi. Ma perché questo razzismo? Ma scusa. Mi mancano giusto i pochini. Lo so che ti mancavano i cinesi, sì, lo so. Ti dirò comunque, guarda che fare sesso, fare la porno diva è stato molto divertente, e ti dirò che a volte mi dispiace. Ma perché non torni? Perché non torni? La porno diva. Ti dispiace, alla fine, ti dispiace. Mi dispiace perché io utilizzavo l'utile col dilettevole, nel senso che guadagnavo un bacio di soldi e poi facevo un ottimo sesso salubre è uguale. Ma perché non fai una cosa? Ci annunci qua che vuoi rifare un altro film porno? L'ultimo film porno? Non, io non so, secondo me ogni momento ha il suo fascino. Ma uno solo, tempo. Uno solo, ma uno solo e poi basta. Il ritorno di Cicciolina, te prendi quello? Chissà, dai, magari se mi offrono una marea di soldi. Tipo, per quanti soldi lo faresti? Te lo dico subito, per un 10 milioni di euro. No, 10 milioni non te li dà nessuno, sì. Dai. Oh, quella... No, no, 10 milioni non te li dà nessuno. Diciamo che puoi raggiungere, secondo me, i 300.000. No, è troppo poco. Ma no, dai, per mezzo milione lo faresti, sì. Per 10 milioni. Ma no, ma 10 milioni, ma chi lo dà? Ma chi li dà? Ma chi te li dà 10 milioni? Dai, Cicciolini, dai, su. Ma tu lo sai che io sono un artista mondiale, io sono famosa, anche adesso sono dentro nel interview russa, lo fai vedere su Twitter. Ma sì, d'accordo, ma non ho capito, ma è un altro discorso. Signora Ilona, quando si parla dell'amore, io sono l'amore segreto dei zar russi. Pensa che bellezza. Sì, ho capito, ma signora Stalla, bisogna anche avere contezza del momento, cioè, lei dice giustamente, io ho più di 60 anni, sarebbe come, che so, io 007 fatto ancora 80 anni, cioè non ha senso. Forma, no. Palestra, ma bella. Lo so, appunto, però uno può fare, sì, un altro film, però non 10 milioni di euro, al massimo ti possono dare, te l'ho detto, mezzo milione, secondo me ci potresti anche stare. Per mezzo milione ci stai o no? Mezzo milione? No. Niente, va bene. Significa che non ti fermi. Facciamo una cosa un po' più semplice. Visto che ho fatto un bellissimo libro scritto per amore e per forza, sul Twitter io già metto... Ma quei libri non portano soldi, non portano soldi. Vorrei farla diventare un film cinema, per il cinema mondiale. Senti, Lona, ma quanti tra la roba che ti hanno rubato là nel tuo archivio, c'era qualcosa di preziosissimo che ti dispiace? Sì, ci sono molte diapositive, fotografie, molti ricordi, insomma, c'è tanta roba. Basta. Senti, ma che ne pensi di questa cosa di Berlusconi che vuole fare un partito sugli animali? Hai visto? Cioè, in che senso? Vuole fondare la nuova Forza Italia sugli animali, cercando voti tra quelli che amano gli animali, bisogna fornire servizi, bisogna far adottare gli animali, eccetera, eccetera. Che ne pensi tu? Perché Berlusconi è animalista? È animalista, pare, sì, animalista. Ora sì. Animalista. Sì. Dici? È molto animalista. Adesso perché? Sì. Perché? No, domando. Ma tu non sei mai stata, quando eri giovane, non sei mai stata invitata da Berlusconi da qualche parte? Beh, eravamo amici, insomma, all'epoca. Hai fatto l'amore con Berlusconi? No, mai dichiarato. No, mai dichiarato, mai fatto forse, no, mai dichiarato. No, non ho fatto. Noi che siamo in questura, non ho fatto sesso con Berlusconi, se no. Volete sentire questo? No, che vogliamo sentire noi? No, ma ti sente che sono un po' raffreddata? Un pochetto, poverina, sì. Un pochetto. Sì. Ma tu dormo nuda. Come dormi nuda? Perché dormi nuda? Dormo nuda e faccio l'amore con me. Come con te? E faccio l'amore con me. Da sola? Ma si veste un po', è magari brutto, è un brutto periodo questo qua. Da quanto è che non fai? Difficile, vero? Astinenza. Da quanto tempo è che non fai sesso? Beh, io ve l'ho detto l'ultima volta, erano 2 anni e mezzo. Adesso quanto tempo è passato? Ma perché ancora non l'hai fatto? Ancora non l'hai fatto? Ancora no. No, dai, su. Scusa, perché può succedere. Mamma mia, ma non ci credo io, Cicciolina. Perché scusa? Non ci credo. Beh, ti saluto, ti abbraccio, ti do un bacio. Ciao, cara. Saluti, signora. Caterina, provincia di Torino. Buonasera, ragazzi, mi fate fischiare dal ridere. Vai, Caterina, vai. Allora, io in realtà volevo dire una cosa seria, ma dopo aver sentito loro mi sento un pochettino imbarazzo. Vai. Allora, io sono un medico, volevo intervenire sulla questione delle case chiuse, cosiddette case chiuse. Oh. Quello che dicono è una cosa molto importante, molto intelligente. Voi prendete per il culo, ma se si rompe un preservativo... No. A posteriori, come quando noi medici ci buchiamo in sala operatoria piuttosto che facendo una colonna. Vabbè, no, ho capito. Sì, ma è vero, è una cosa seria. Dirlo. Sì, ho capito. È una cosa serissima. Ma certo che è serissima, però lì è È la prima cosa seria fatta da razzi, la prima, l'unica gli va riconosciuta. Dai, ragazzi, ma invece è vero. È la prima e unica cosa intelligente fatta. Ragazzi, stasera mi avete rotto le scale. Capirlo, però, perché poi la gente parla senza capire un cazzo. Ma non lo sappiamo, allora, lo sappiamo perché, Caterina, è chiaro, perché il motivo è evidente: se uno si rompe il preservativo ci possono essere malattie, eccetera, eccetera. Perché credo che la gravidanza, uno prende le precauzioni, le prostitute prendono le precauzioni. Ci sentiamo lunedì, domani. È meglio che non mi incontri il tuo galoppino Cogliarenzo. Cogliarenzo? Vabbè, perché? Che cos'è? Se non un enorme coglione. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Prenda atto che ormai è tutto finito. Radio 24. La passione si sente. Centro Software, il miglior ERP per gestire le imprese italiane. Vi ha presentato La Zanzara.